prostata, per curarla bisogna trombare. Guarda, Cruciani ha una prostata meravigliosa che viene esibita ai congressi medici per dire come si deve tenere la prostata. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Alla zanzara non dovrebbero dare le cuffie d'oro o i microfoni d'oro e o quant'altro, ma dovrebbero dare il Nobel, perché è l'unico programma dove un cazzo di improbabile ascoltatore vegano si possa permettere di augurare al conduttore di baciare il culo ad una mosca e dove si possa sentire una proctologa intervenire e suggerirti come lavarti il culo. Siamo al top! Ciao Cruciani, oh ma sei veramente diventato radio cloaca. Io mi stupisco che qualcuno non abbia ancora scorreggiato in diretta. Ragazzi, forse ho letto male, Parenzo, forse ho letto male, forse, no, forse ho letto male, ma c'è un libro che sarà pubblicato a firma di Gian Roberto Casaleggio, si chiama Veni, Vidi, Web, questo è il titolo, in cui Casaleggio, il guru del Movimento 5 Stelle, immagina il futuro, allora... Petrolio e carbone proibiti insieme alla circolazione di macchine private, i mezzi pubblici gratuiti, emissione di CO2 punita con la reclusione fino a 30 anni, taxi, tabaccai, macellerie, librerie scomparsi. La più grande impresa del mondo produce biciclette e monopattini, le spiagge sono libere. Ipermercati rasi al suolo ovunque. Ma perché poi ipermercati rasi al suolo ovunque? È chiaro, perché sono luoghi malfamati, luoghi dove si vende la merce. La merce è morte, la merce. Ma come la merce è morte? Che vuol dire la merce? Esiste internet, anche la politica. Tu hai un deputato, ad esempio, che viene eletto, premi delete, che tu non sai neanche che cazzo è il delete, sul computer e scompare, lo rimandi a casa. Ma no, ma non può essere così. Non c'è il Parlamento, è un mondo nuovo che non potete neanche immaginare. Non serve il supermercato, già adesso ti portano a casa le cose, ora basta che tu ordini, non vai in questi cazzi di supermercati dove peraltro azionista sono 24 ore, non ha nessun senso, nessun valore. Vabbè. Tu ordini nella rete e ti arriva a casa solo l'erba, il vegetale, il vegano, niente uova, solo il pomodoro, il basilico, le cose di prossimità, quello che hai nel giardino, è abolito tutto, è un mondo nuovo che è già qui, già in Germania è così. Lo fanno, ma già. No, ma non è vero, non è vero. Anche comunque, aspetti, Grillo. Ci sono altre cose. Non si possono possedere complessivamente mobili e immobili per un valore superiore ai 5 milioni di euro. Certo, non serve a niente. Ogni euro in più deve andare a favore della comunità. Vabbè. Chi si sottrae è rieducato alla comprensione della vita in appositi centri yoga. Ma questo, com'è? Questo qua è un fake, dai, non è possibile. Appositi centri yoga gestiti da neomaoisti. Dai, ma questa è una cazzata. Che cico, non è possibile che abbia scritto cose di questo tipo, dai. La parola leader è diventata un insulto, cioè non esistono più i leader, capito? Questo non esiste, esiste uno vale uno, i meetup l'abbiamo inventati noi, è una cosa straordinaria che ha rivoluzionato la politica, il resto è finito, non esiste neanche il nome delle persone, non devi neanche eleggere nessuno, lo fai con un clic e lo puoi cancellare. Come eliminare. I nomi eliminati, i nomi delle persone non servono, uno vale uno, si chiama Fico, ma chi è Fico? Beh, ma è uno dei vostri. Ma già Russo anche con quel nome non esiste, è gente finita, basta mettere. Ma no, ma è uno dei vostri. Ma lo clicchi, lo voti, non lo vuoi, delete e cancelli il file. Stacchi la spina, è uguale. Allora, poi aspetta, nuovo. I corrotti e i corruttori esposti in apposite gabbie sulle circonvallazioni delle città. Ma questa pure condivide, Grillo, questa cosa di Casaleggio? Dico, vabbè, forse peggio addirittura. Questo già avviene, già c'è in Svezia, nei paesi civili. Ma non è vero, nord. Ma non sono esposti i corrotti. In questo modo abolisce le carceri, sparisce il carcere, spariscono i secondini. Vabbè. A cosa serve il carcere? Li metti ai bordi delle strade, la gente vede chi è, magari gli sputa pure. Non gli devi dare da mangiare, risparmi. Lo Stato risparmia, non ci saranno più le finanziarie. Il DEF, da questi nomi, che cos'è? Il DEF è una parola che fa vomitare. Questo è il mondo immaginato dal signor Casaleggio. Dal no, signor ma davvero Casaleggio. Però, diciamo che è vero. Ma sì, è vero, io stento a crederci, perché uno non può dire che vuole le gabbie per i corrotti, per i corruttori, no, con l'esposizione al pubblico. In ma realtà... modello ISIS, lo fanno già. Beh, ho capito, nell'ISIS lo fanno, ho ma capito. Ma lo fanno, non hanno elezioni, è evidente, è un modello che esiste, c'è la gabbia col detenuto. Se poi ti rompi i coglioni gli dai pure fuoco, è risolto il problema. Vabbè, non so se siete sollevati, ma signor Razzi a Natale andrà in Abruzzo, poi in aprile in Corea e in Mongolia. Natale sto a casa, sono con i parenti nel mio paese Giuliano Teatino. Non mi muovo dall'Abruzzo. Stai in Abruzzo, fisso? Io pensavo andassi in Corea. No, è aprile. Ah, vedi? Al mese d'aprile vado in Corea e in Mongolia. Abbiamo ricevuto l'invito da tutte e due, anche dalla Mongolia. E quanto tempo sta? 10 giorni. Scontro Scanzi Casini, hai cambiato più casacche di Ibrahimovic, secondo Scanzi. Ma in realtà Casini, adesso non voglio andare per forza contro Scanzi, qualcuno mi dice sei andato contro Scanzi, non me ne fotte nulla. Però in realtà Casini, adesso è vero che è più o meno sta con Renzi, ma non mi pare che abbia cambiato casacche. Sì, ha cambiato nomi dei partiti, ma è sempre sì, rimasto. Ma lui sta sempre al centro, in realtà. È sempre rimasto al centro. Cioè, cerca di stare sempre con chi governa. No, chi ha cambiato sono i coniugi Bondi, la signora Repetti in Bondi e il signor Sandro. Beh, Bondi. Di questo ne parlano tutti, eh. Cioè se vai nei bar, dici, ovunque. Se vai nei bar parlano del fatto che no, Bondi e Repetti vanno con Verdini. Mi hanno fermato per strada, mi hanno fermato per strada, mi hanno cazzo, che è successo con Bondi e Repetti? Perché abbiamo visto che hanno cambiato partito, dico sì, è un dramma, c'è la guarda, addirittura è bloccato il grande raccordo anulare di Roma, si è bloccato. Cioè vanno, la notizia è questa, Bondi e Repetti, la coppia insomma di sì. Berlusconiani di ferro, quelli che quello faceva le poesie per Berlusconi, Repetti diciamo dietro Bondi, aderiscono al movimento di Verdini, la grande notizia politica di oggi, dunque si ingrossa l'affair Verdini, dunque sostanzialmente dicono che non c'è alternativa a Renzi, passano da Berlusconi a Renzi, vabbè ragazzi, ma di che vi stupite, di che vi stupite? Se lei mi chiede un'analisi del passato, io vedo che lei lì ha il protegge cellulare del Bologna, lei è uno che ha cambiato più casacche di Ibrahimovic, magari la vecchia politica ha perso anche per quello. Lei sta dicendo una falsità. Come no? Chiaramente si vede che lei in campagna avete appoggiato il PD, nel centrodestra avete appoggiato il Ligure, voi appoggiate gli italiani con tutti i difetti che io ho, Casini. E che magari mi riconoscono una cosa, mi riconoscono la coerenza. Sono democristiano dall'inizio e continuo. La coerenza sì, è lei, Casini, sì, certamente questo, più di lei. Questa è una buona battuta. Sì. Beh, questa è una buona battuta. Le do una notizia, se siete arrivati sotto l'1% motivo c'è. Ma lasci perdere. Ragazzi, io quando parlo di pedofilia so che non sono più lucido, cioè perdo la mia non ho mai grande lucidità, però sulla pedofilia perdo la testa, cioè mi vengono fuori le vene dal collo. Allora, sentire certe voci da questo paese maledetto che si chiama Oppido Mamertina, non vorrei esagerare nel dire maledetto, perché ci sono anche un po' di indranghetisti in questa città, no? In questa cittadina della Calabria, però lo diciamo lo stesso, perché quando sento certe voci che riguardano la storia è questa, un vescovo che copre un prete, Don Antonello Tropea, che è stato addirittura sorpreso dentro una macchina insieme a dei minorenni dai carabinieri, quando io leggo che questo signore che si chiama Francesco Milito, questo vescovo, ha coperto a lungo questo signore, vado ai matti. Ma soprattutto vado ai matti quando sento gli abitanti di Oppido Mavertina. Gli abitanti, sentite, abitanti, cittadini come voi. È stato l'unico parroco che è riuscito a raccogliere tutti i bambini. E i bambini non crediamo. Nessuno avesse visto qualcosa. Penso che tra tanti bambini qualcuno diceva qualcosa. I bambini amavano e stimavano Donna Antonella al 100%. E lo stimano e lo vogliono. E lo vogliono qua. Beh, certo, ma ci sarà un motivo per cui lui si circondava di bambini, forse, no? Forse c'è un motivo, amico mio. Non era il motto evangelico, lasciate che i bambini vengano a me. Adesso magari proprio i bambini piccoli, no? Ma insomma, aveva a che fare con minorenni, ragazzi. C'è un prete pedofilo, c'è sempre circondato da bambini. Come si dice? Sempre circondato da bambini. I bambini non gli volevano male. I bambini, com'è che si dice in calabrese, cazzo? Uno che mi fa il calabrese, i bambini. Calunnie. Noi siamo vicini. Lui sta costruendo il campetto per i ragazzi. Siamo vicini di casa, lo sta costruendo, non ci crede assolutamente. Quindi non ha mai notato niente? No, tutti i giovani di Messignano sono con lui. Interrogate i bambini che piangono per Don Antonello. No, i bambini non si interrogano, cara signora, cioè non è che si chiede ai bambini, ai bambini, non si chiede nulla ai bambini di solito. Cioè, poi quando ci sono le indagini si chiede anche ai bambini secondo delle procedure. Nei contesti normali si cerca di tutelarli, nei contesti normali però, Dopo 20 anni abbiamo avuto un sacerdote per bene che accoglieva tutti, non l'hanno lasciato in pace. Non l'hanno lasciato in pace. Noi vogliamo non giustizia e crediamo all'innocenza. E basta, solo questo. Crediamo all'innocenza. Siate forte, Don Antonello, siate forte. Ma vaffanculo, va. Don Antonello, siete forti. Mandano pure il bacio, è un mondo capovolto, ragazzi, cioè un mondo completamente capovolto. Oppido Mavertina, roba incredibile, dai, incredibile. Allora, finalmente i radicali fanno qualcosa di positivo. Basta con gli scioperi della fame inutili, basta con queste buffonate che la gente non capisce, non si sa bene su che cosa. Una volta scioperavano pure perché non venivano nominati giudici della Corte Costituzionale. Beh, ricordi? Certo, la grave offesa alle istituzioni, non fregava una mazza a nessuno. Abbiamo fatto tutti il grande Satyagraha. No, io non ho fatto un cazzo di Satyagraha, l'hai fatto tu. Ma io non digiuno manco per. Si chiamava Satyagraha. Sì, ma io non ho fatto nulla, non ho mai fatto nulla e ma penso tu che. Ma cos'è il grande Satyagraha? Sì, vabbè, ma lascia perdere. Adesso invece stanno facendo qualcosa di positivo, finalmente. Beh, cioè aiutano la gente a morire. Però in questo caso concretamente, grazie a un signore che si chiama Marco Cappato, che è consigliere comunale a Milano, aiutano la gente a crepare. Cioè, se qualcuno è in fin di vita, è in una situazione drammatica, è un cancro in fase terminale, però ancora si regge in piedi, può dettare le ultime volontà. In Italia è un bordello, in Italia è un casino, in Italia è complicato, so, poi, anche se si può fare, poi rischi, no, di andare in galera se dai qualche sostanza, se sedi le persone più di quanto devono essere sedate secondo le norme di legge. Per cui che cosa fanno questi signori? Danno consigli e addirittura portano materialmente, come ha fatto e pagano. No, il caso di cui vuoi parlare giustamente è un caso in cui addirittura i radicali hanno pagato la morte, perché hanno dato 12.000 euro alla signora di cui parleremo, che purtroppo ora non c'è più, e l'hanno, non solo gli hanno organizzato, no, meglio per lei, perché lei voleva morire, ha scelto così, hanno pagato la possibilità finalmente qualcosa di positivo dai radicali dopo tanti anni in cui parliamo e pigliamo in giro. Positivo, aiutano la gente a crepare in Svizzera perché non ne può più di vivere e in Italia non si può fare. Evviva i radicali da questo punto di vista. Il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego, il traffico no. La Zanzara. Qualcuno mi dice: parla della petizione di Rocco Siffredi su una change.org sull'educazione sessuale nelle scuole. Ma io sono totalmente contrario, sono d'accordo con Rocco su moltissime cose, ma non sull'educazione sessuale nelle scuole. Cioè, penso che sia totalmente inutile l'educazione sessuale nelle scuole. Che significa poi concretamente l'uso del preservativo? Ma per quello dovrebbe esserci, purtroppo non c'è, il Ministero della Salute per informare nelle scuole sull'uso del preservativo anche a 13, 14, 15 anni. Ma l'educazione sessuale cosa significa concretamente? Beh, quando studi il corpo umano a scuola, e che cosa ti dicono? Che col pisellino si deve entrare dentro per fare i bambini? Che cosa ti insegnano? Non ho capito. Due, tre nozioncine su come quella non è l'educazione, l'amore, che non è il sentimento amoroso, ma la pratica, la tecne, la ma vedi che non sai nemmeno tu come dire. L'educazione sessuale nelle scuole è una cosa fondamentale. Sai che negli Stati Uniti ad esempio c'è un grande problema per minorenni che spesso rimangono incinta, l'uso ma della quello pillola. È l'uso del preservativo e della pillola è un'altra cosa, ma non ci vuole una materia apposita, no? Sessuale è educazione sessuale, educare il proprio corpo, sapere cosa fa il corpo, mi pare fondamentale questo. Mi sembra educazione sessuale nelle scuole. Ma che vuol dire? Non parlare di slogan, cittadini consapevoli. L'educazione sessuale nelle scuole, al di là dell'uso del preservativo, è una puttanata. Uno impara la sessualità non a scuola, ma lo impara in un altro contesto, nella vita normale. Ma nella vita normale, aspetta, nella vita normale di tutti i giorni, non c'è bisogno della scuola per tutto, anche per educazione sessuale, per capire dove mettere il pisello. Dai, su. Beh, no, non è esattamente così. Ma come no? Lascia squillare il telefono intanto. Vabbè, Francesco, provincia di Livorno, dai. Francesco? Tu? Dimmi. Buonasera, cari. Allora, ricollegandomi al discorso di Oppido. Sì. La famiglia di mio padre è originaria proprio di Oppido. Sì. E, cioè, tu sei allora, tu sei... No, io sono tu sei calabrese, dillo, sei calabrese. No, io sono nato a Torino. Vabbè, ma ho capito, ma sei calabrese. Sì, di origini, sì. E fai le rinneghi, ti fanno schifo? No, assolutamente. Dico però soltanto una cosa, mio nonno, quando era sempre vivo, una volta soltanto mi parlò del perché lui aveva deciso di lasciare Oppido e di trasferirsi in Piemonte subito dopo la guerra. Oltre alla questione legata al lavoro, che in Calabria non c'era, mi disse chiaramente una cosa: se io fossi rimasto lì, non dovevo sottostare alle leggi, al carabiniere o al poliziotto di turno, nemmeno al fascista di turno. Io dovevo sottostare al mafioso di turno e al prete pro tempore vigente. Questa Vabbè, era la ma questo non mi pare, non mi pare, non mi pare una novità, però. No, cioè... la cosa triste è che lui me lo raccontava di avvenimenti degli anni 40. Siamo nel 2015 e lì continua a funzionare così. Cioè il legame tra che cosa? Tra l'andrangheta e la Chiesa? La cosa triste è quella che a distanza di tutti questi anni lì ci siano persone che continuano a sostenere il camorrista di turno, l'andranghetista di turno e il prete di turno. Nessuno ha deciso di aprire gli occhi e capire, no, che forse nell'arco degli anni le cose dovevano un attimino cambiare. Sì, no, assolutamente, grazie, ciao Mimmo da Taranto, vai Mimmo. Buongiorno dottor Gruppo, buonasera dottor Cruciani. Sì, ma non mi salutare che mi dà fastidio. Volevo sostenere due miei tesi importanti di questa Italia che non va. Importantissimo. Abbiamo un po' di discorso, importanti, sì. Qui a Taranto a me non gira più il fumo buono. Beh, non c'è più il fumo all'hashish buono. Questo bisogna è un problema, Esatto, un problema. Bisogna legalizzarlo perché non si può fumare più, si fuma l'acido. Oggi no, beh, spiegami, siamo molto interessati all'argomento, soprattutto esatto, un problema enorme. Esatto, è un problema enorme, sì, perché ma io tu quante canne per potermi fumare. Stai calmo, mi sembri sovraeccitato, mi sembra. Sono sei anni che seguo questo programma, la prima volta che metto a contatto è normale, però no? Mimmo, aspetta un attimo, tu innanzitutto non sei calmo, no? Parenzo, dunque sicuramente non ti sei fatto l'hashish, non ti sei fatto una canna. No, non fumo più. Non si può fumare più. Ti fa stare male, ti dà sensi strani, uno se ne accorge che fa male, adesso fa male fumare. In Italia non si può fumare più, perché non c'è più la roba buona, è tutta modificata, ci sono additivi, acidi e via dicendo. Io devo andare ad Amsterdam, potevi fare una canna come si deve. devo viaggiare, devo spendere, mentre in Italia bastava legalizzare che era un mercato. Beh, e poi rimane la mafia. Questo enorme, è un problema serio, questo è un problema molto serio. Beh, comunque stiamo parlando della mafia del sud, no? Diamo in mano a questi qui che ci danno pure la roba bruttissima, dell'ascio schifoso. Cioè, tu dici almeno, almeno legalizziamo, tanto lo fanno. Vabbè, tutti quello, la mano, lo quello fanno tutti. Siamo d'accordo con la mia comitiva di 15 ragazzi, per esempio, io ho 27 anni, 15, tutti fumiamo, non c'è nessuno che non fuma. Cioè, quanti anni hai tu, Mimmo? 27 adesso. 27. Sono un po' più che mio, però da quanti anni? La media è questa. Da quanti anni fumi, scusa? Facciamo una decina di anni. Cioè, ormai ti sei ormai ti sei bevuto il cervello, diciamo la verità. No, che bevuto il cervello. Cervello una in pappa, cervello io in non pappa, parlo dai. Di vizio. Io parlo della cannetta rilassante, ogni tanto non si può fare più. Non esiste più. Io parlo di quella, bisogna legalizzare, come la prostituzione, non si può ancora dare in mano alla mafia. Legalizziamola, che è bella, serve. Vabbè, è una cosa, paghiamo le tasse, no? Ma tu vai, ormai. Vai anche a prostitute? Anche sì, ogni tanto capita, sì, così per spiccio. E dove, a Taranto come funziona la storia? Come in tutta niente, Italia, immagino. Sì, esatto. Ne trovi i numeri su internet, la media sulla 50-70 euro più o meno, dalle 50 alle 70 euro. 50-70 botta. Ogni tanto lo sfizio si può fare, nella vita bisogna togliersi gli sfizi, o no? Sì, come si vive a fare? Come si vive a fare se no? Ma legalizziamole, come fanno in Germania, in Polonia, io ho viaggiato, è tutto legale. No. Però qua Mimmo, scusa, tutti in mano alla mafia. Mimmo, no, è interessante, al di là della prostituzione, eccetera, tutti in mano alla mafia e dunque legalizzare, con noi sfondi una porta aperta. Ma tu quante canne ti sei fatto? Secondo me te le fai anche adesso tante, le canne. No, perché... no, oramai sono 5-6 mesi che non faccio più. Per ah, perché motivo. Brutta roba, c'è brutta roba. No, ma è proprio brutto, cioè prima riuscivo a avere il bettabolo da un amico, no? Fumavi la cannetta, ridevi con gli amici, scherzavi, ridevi. Adesso è diventata una cosa. Ma tu dove te la prendevi prima? Giù al parco, per strada, i pusher? Gli amici coltivavano, facevano, ma adesso non c'è più niente perché arrestano, no? Prima no, più facile. È uguale prima. Sì, diciamo così, ma adesso il problema è che se vai a comprare qualche cosa, visualmente cose brutte. Trovi solo cose brutte, è un problema serio questo qua. È un problema serio che se legalizzi io fumo la cosa buona e non mi fa male, capito? Se io non posso fumare più. Gli effetti ci sembrano devastanti, però nel suo caso. Ma Enzo, lei ma perché sto dicendo questo? Mentre che voglio legalizzare la cannabis. No, per qua a sentirla io che comunque qualche adesso semplicemente sono eccitato perché la chiamata, no, è l'emozione. Sì, sei un po' sovraeccitato, sembri molto sovraeccitato, però non dashish, no, vabbè, Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao. No, ma scusa, ma hai letto cosa scrive Casaleggio dei cacciatori? Cioè, come vorrebbe i cacciatori? Si sa che lui è contrario alla caccia, o comunque una molta parte del Movimento 5 Stelle, alcuni, no? Sono vegetarian barra animalisti barra vegani. No, diciamo. Vegani, molti sono vegani. Com'è che li vuole nudi, nudi in una foresta pieni di sale, ricoperti di sale? Così, ricoperti? Certo. Come delle statue di sale, così la gente quando passa vedi, dice cazzo, questo era un cacciatore. È così nei boschi della Germania, funziona così. Ma non è vero, nei boschi della Germania non ci sono i cacciatori nudi. È pieno di boschi in Germania. No, ho capito, ma non ci sono i cacciatori nudi pieni di sale. Vengono come un branzino al sale, vengono messi lì statue di sale. Cioè li vuole ammazzare in pratica, li vuole ammazzare. No, tutt'altro, torturare, è morte con il sale, è evidente, è chiaro. Il sale peraltro è ecologico, il sale non è una morte dura, una morte naturale. Il branzino come veniva fatto? Al sale, cotto al sale, no? Vabbè, ma ho capito, ma quelli sono i cacciatori. No, ma gli antichi, come fa l'uomo di Neanderthal, come cazzo cucinava e conservava le cose? Con il sale. Non hai letto, nella terracotta mettevano nella terracotta il sale, e i cacciatori uguale, perché danno la morte, vengono messi lì nelle foreste del nord della Germania, è pieno di sale. Ma non è pieno di statue di sale, pieno di uomini con le statue di sale, pieni di sale, così come i cosi, come le orate, come le orate come come le orate, è evidente, uomini col fucile, ovviamente, mica li devi bloccare con il fucile, ricoperti di sale, e questo bianco con il verde della foresta della Germania, bellissimo, è una cosa meravigliosa, vanno anche a vederli i bambini, così imparano e sanno che fanno quella fine lì se dovessero mai cacciare, e funziona. Roberto, anzi no, Cristian da Napoli, vai Cristian. Ah, buonasera dimmi Cristian, finalmente vai. Dopo anni vai Cristian, vai. Io sono sposato con una bellissima ragazza. A proposito della questione dei preti, devi sapere che nella chiesa vicino a casa mia, chiesa di preti francescani, vada bene, francescani, quelli a piedi scalzi, mia moglie nel confessionale, io non sono cattolico, sono buddista, mia moglie nel confessionale, lui ci mette una mano fra le gambe. No, vabbè, dai, ragazzi, okay. Però non è possibile. Allora, non ci credo, bene, dai, non ci credo, Cristian. Allora, rimandiamo bene, tutto, fermo lì. Fermo. Cristian, ti richiamiamo perché la storia è interessante. Tu stai dicendo che il prete nella tua. Però poi non è che uno può sparare cazzate, ci devi dare indicazioni precise. Una chiesa di Napoli, un prete nel confessionale mette una mano dentro le cosce di tua moglie, giusto? Ci prova. Ma hai detto che mette le mani in mezzo, ci prova o non ci prova? No, ci prova prima di prendere uno schiaffo, chiaramente. E dunque che ha fatto? Ha messo la mano o non l'ha messa? L'ha messa, certo che l'ha messa. Vabbè, no, a dopo, sai, i dettagli a dopo. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. In questi giorni di festa, regalatevi tutta l'informazione, l'intrattenimento e la passione di Radio 24. Buon ascolto. E buon Natale. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Zanzara è un freak show, ma lo dico con tutto l'amore. Dovete parlare di fighe, dovete parlare di matrimoni, assolutamente dovete parlare di quelle cose lì, ma di fiori d'amore, ma di che, ma cosa stiamo dicendo, ma per cortesia. Allora, i poveracci truffati dalle banche che hanno venduto della spazzatura ai correntisti per arraffare dei soldi perché erano in difficoltà, una delle più grandi vergogne degli ultimi anni, risparmiatori poi massacrati dal governo che in un giorno, da un giorno all'altro, ha cancellato. Si poteva fare diversamente, ho appreso molte cose in questi giorni, caro Parenzo, si poteva fare diversamente, ha cancellato da un giorno all'altro queste obbligazioni, sono andate davanti alla Banca d'Italia a protestare, giustamente davanti alla Banca d'Italia, che ovviamente non ha fatto una bene amata mazza in questi mesi, in questi anni, per fermare questa vendita assurda di obbligazioni ai signori, ai pensionati che si fidavano delle loro banche e invece hanno ricevuto in cambio sostanzialmente della spazzatura, della cacca, voci. Quelle non erano obbligazioni, erano merda, ci hanno venduto. Quello sono un'associazione a delinquere, sono quelli. Io sono fiorentina e mi vergogno di Renzi, è scappato da dietro la Leopolda, noi lo aspettavamo davanti, è scappato da una strada sterrata attraverso una caserma di dietro e è uscito dalle cascine. Questo è Renzi, per chi gli ha dato il voto, per chi gli è un giullare, bravo. Non essendo fallita la banca, noi a chi ci si rivolge? Se era fallita la banca, noi si poteva andare e ricriminare qualche nostro diritto. Invece cosa hanno fatto? Con i nostri soldi hanno salvato i dipendenti, magari, che ci hanno venduto queste cose qua. Insieme a quegli altri bravi hanno salvato anche questi. E noi non ci sa con chi rivalersi. Si vedrà se c'è stato davvero il salvaggio dei posti di lavoro. Voglio vedere dopo la ristrutturazione, dopo un anno e mezzo, quando queste banche saranno comprate. Lo voglio vedere quello ha salvato questo delinquente. Questo è un delinquente. Alla Banca Italia si va a protestare davanti a Banca Italia. Questi ci vogliono dare le colpe dei consigli di amministrazione che non hanno vigilato e che non hanno fatto niente di quello che dovevano fare. Babbo della Boschi, 144.000 euro di multa. E però è una persona per bene, è un onesto, è una persona per bene. Bravo, complimenti, 144.000 euro di multa, bravo. Allora, quello che avete sentito è riassunta tutta la rabbia di queste persone, no? Che se la prendono con chiunque, col governo, col papà della Boschi, con le banche, una specie di... No? Sì, ma in realtà la Banca d'Italia aveva scritto delle cose in tempi non sospetti, però poi non si capisce perché nessuno non ha fatto niente. Sì, ho capito, ma... Cioè, non è vero, no, non è per contraddirti, ma è semplicemente, e neanche per spiegare un cazzo, ma la Banca d'Italia nel 2013 aveva scritto che era tutto un disastro lì. Sì, ho capito, ma se non si... so perché l'ha scritto, ma che nel 2013, amici, ha scritto quasi tutti privi di competenze specifiche in materia bancaria. Mi viene la voce così, non so perché. Ma lo sai che la cosa dei cacciatori in realtà è leggermente diversa. Allora, scrive Casaleggio: i cacciatori fanno solo safari fotografici e ripongono nei nidi i piccoli caduti al suolo. Chi è sorpreso con un fucile da caccia è lasciato nudo nei boschi e braccato da personale specializzato con pallettoni di sale grezzo dall'alba al tramonto. Cioè, non è lasciato pieno di sale, ma è braccato da personale. In Germania, questo certo, questo sarà in Italia, ma in Germania già oggi vengono ricoperti di sale, questo è evidente. In Spagna, naturalmente, non si fanno più le corride, vabbè, questo so. Qualcuno è anche d'accordo, magari Parenzo è anche d'accordo con l'eliminazione delle corride. Io no, le trovo straordinarie, le trovo una cosa straordinaria. Straordinaria. Una volta solo a vederla. La corrida è meravigliosa, guarda, meravigliosa. Ci sono io per decidere al posto degli spagnoli, ma però non sono per. E allora a Pamplona. Una cosa si fa a Pamplona. Beh, infatti questi protestano anche con le cose che succedono a Pamplona. Pamplona. Quella meravigliosa corsa dei tori. Qui peraltro lì a rimetterci più delle volte sono gli uomini, non i tori. Beh sì, anche i tori poi alla fine vengono un po'. No, ma nella corsa di Pamplona, la cosa folle, io penso che sì, una specie di suicidio, sì. No, sì. Ma un idiota, professor, non per dire che sono idiota. Ma no, se devi dare idioti. Dell'idiota chi va alla festa di Pamplona, c'è un sacco di italiani che ci vanno. No, chi va? Chi si mette a correre inseguito da un toro, ma devi essere un pirla, secondo me. Però per carità, va tutto bene, non mi interessa. Allora, i nazi animalisti a Parma qualche giorno fa hanno messo questa scritta. Adesso incazzati pure tu su questa cosa perché c'è da incazzarsi. Auschwitz inizia ogni volta che qualcuno guarda un mattatoio e pensa che sono solo animali. Ripeto, Auschwitz inizia ogni volta che qualcuno guarda un mattatoio e pensa che sono solo animali. Cioè, secondo loro, nei confronti degli animali è in corso una specie di olocausto. Auschwitz. Auschwitz. Auschwitz. Tappatevi la bocca! Tappatevi la bocca! Ora, oggi mi dicono che sia anche la giornata mondiale dell'orgasmo, caro Parenzo, non so se te ne sei accorto. Ah no, questo scusami, questo non... Ti era sfuggita questa cosa qua. Allora, naturalmente ci sono sondaggi su sondaggi, no? Sull'orgasmo. Io non credo molto a questi sondaggi, solo a un sondaggio credo, il fatto che le donne spesso fingono. Purtroppo succede. Noi non lo possiamo sapere, siamo vittime di questa roba qui. Leggevo l'altro giorno un passo memorabile di un libro, molti l'hanno indovinato, un libro di Massimo Fini sul sesso, un libro meraviglioso, dizionario erotico, manuale contro la donna a favore della femmina, sull'orgasmo, appunto anticipando questa grande giornata dell'orgasmo. Pare che un terzo, cioè oltre il 30% delle francesi, l'Italia è terza, classificata di terza, hanno difficoltà a raggiungere l'orgasmo e molte più delle volte fingono. Io credo che questi dati siano addirittura bassi, cioè la finzione è una caratteristica fondamentale da questo punto di vista ed è anche giusto ogni tanto fingere, dai un po' una soddisfazione a questo povero signore, questo povero Cristo che sta lì tutto sudato, no? Che cerca di farti venire e non ci riesce la maggior parte delle volte. Allora uno dice faccio finta, no? È anche una soddisfazione. Io credo che molte mogli, molte persone che stanno insieme utilizzino le donne questa roba qui per dare un po' di soddisfazione a un signore che tutto sudato cerca di farti venire. Ecco, questo è il grande vantaggio che il genere femminile ha rispetto a quello maschile. Assolutamente. Ma direi anche la tirannia da questo punto di vista, quasi una tirannia. Anche sì, la tirannia. Un dominio assoluto da questo punto di vista. Cioè, loro possono fingere, noi no. L'uomo no, bravo. Ma da tutti i punti di vista non si può fingere, amico mio, se non gliela fai, non gliela fai. Questa è una cosa che andrebbe cambiata. Non so se Renzi può fare qualcosa, ma non credo però. Cantone forse si può chiedere. No, forse Casaleggio. Col computer effettivamente hanno ragione. Col computer hai risolto molte cose. Vedi che a una cosa potrebbe servire questa cosa del web. La rete poi meetup poi... del sesso, un meetup del sesso. Cristi a Napoli ci stava raccontando però una storia straordinaria, quella di una chiesa di Napoli dove si sarebbe consumato un atto drammatico, direi, cioè un prete che durante il confessionale, se sbaglio, no? La confessione, cioè che non è il confessionale il Grande Fratello, ci prova con la moglie, con la compagna, vero Cristian? Ciao Giuseppe, sì. Allora, in verità non è la prima, attenzione, cioè la mia è una, questo è uno dei più casi con questo prete. Cioè, il nostro è arrivato dopo una serie di cose che peraltro, essendo una chiesa di quartiere, io avevo già sentito. E ti dico, ci sono persone, allora, cioè questa chiesa che ha praticamente adiacente, cioè è tutt'uno con il palazzo in cui, cioè il palazzo, insomma, con le stanze dove vivono, sì. Ok? Spesso io non capivo neanche il perché, si verificavano le confessioni in una stanza a pian terreno di questa chiesa, ok? Quindi non nel confessionale, ma nella stanza dove c'è anche un lettino, una scrivania. Che è successo però alla tua compagna, a tua moglie? In buona sostanza entra, si confessa, comincia la confessione, mia moglie frequenta, diciamo, la mia compagna frequenta questa chiesa, ma non in modo specifico, sì. Dopo un tot di tempo, insomma, si apre. Come io poi mi stupisco, ma ancora c'è gente che si va a confessare, cioè è incredibile. Senti, guarda, questa cosa io qua. Non ho nulla contro i preti. No, ma per dire, gente che si va a confessare, ma io lo trovo una cosa barbara. Cioè, allora, io, ma come io fai ad andare da uno a dire ho peccato? Ma che cazzo vai a raccontare a uno? Vai, ho peccato, a un signore là che sta lì, che non conosce, un prete, magari sì, lo conosci perché frequenti quella parrocchia, ho peccato. No, ieri sera, sai, in macchina, ho avuto dei pensieri, impuri con l'amico di mio marito. Ho avuto dei pensieri impuri con l'amico no, di no, ma mio poi marito. Perdonami, scusa, ma la Chiesa ha messo anche una regola, che è una regola veramente della Bibbia, che dice che tu puoi anche non confessarti e ti prendi l'ostia se reciti, non so, una preghiera che ma la confessione, insomma, di che parliamo? Ma uno si confessa comunque, insomma, con l'amico, guarda, si confessa col marito, con la moglie, col compagno, con la compagna, con la fidanzata, non è che va a raccontare al prete e poi il perdono recita, il perdono le, recita stare, le, vabbè, le preghiere, ma, che roba è, ma che roba è, io, Parenzo, io non ho capito una cosa, aspetta un attimo, torno da te Cristian, ma nell'ebraismo c'è questa roba? No, non esiste. Oh, finalmente. No, non esiste la confessione a tu per tu. Esiste una giornata che è il digiuno dello Yom Kippur, ad esempio, sì, che io, come lo, sai, lo conosciamo bene ogni anno, lo conosciamo bene, sì, ed è un digiuno, l'espiazione, diciamo, l'espiazione. Però sì, però almeno collettiva, almeno non è che vai da sì uno, certo, esatto, vai da i fattacci tuoi, esatto, sì, esatto, cioè, esatto, un giorno, però ognuno fa come crede, ad no, esempio, vabbè, sì, i certo musulmani hanno, come tu sai, addirittura un mese dove vabbè, quella siamo proprio, quella siamo proprio, lì siamo alla follia. Ramadan. Il Ramadan, beh sì, certo, questo lo so, no, non c'è bisogno che me lo spieghi così. No, ma questo è legato alla confessione dei peccati, che per loro... Sì, vabbè, ma quella lì siamo nel campo della follia, un mese, eccetera, lì voi avete riservato un giorno, un mese per confessare i peccati, sarà normale o no? Ma non è un normale, giorno. Lo vogliamo dire o no che non beh, è normale? A te non basterebbe neppure un anno, guarda. No, ma forse nemmeno due di anni, forse nemmeno due. Ah, poi io sono stato generoso, neppure se lo facessi per due anni ti puliresti dalla immondizia, vita, d'accordo, può darsi, distrutta, donne, vita. Beh, non soldi, sai che cosa dire, perché in realtà soldi che no, dici infatti, delle stupidaggini. Però, insomma, donne, porcherie, relazioni, cose ambigue, piedi leccati. Ma che i piedi leccati non bisogna confessarsi? No, porcherie. Scusi, che stai facendo, Brunetta adesso? A fine d'anno, mi sono indemoniato con tutti i personaggi che noi, che non riesco più, capito? Ogni tanto mi salta fuori, anche quando parlo normalmente a casa. Ho già da pranzo un attimo a casa, sto preparando la trasmissione. Ho detto, portate la pasta subito. Cioè, non riesco a parlare normalmente. Vabbè, Cristian, non ho capito che ha fatto sto prete alla fine. Insomma, ragazzi, alla fine il concetto è questo: una mano sul ginocchio, dal ginocchio è passata la gamba, la mia compagna è rimasta un attimo così, dopodiché è partita sta mano verso zone, come dire, sconosciute. Ma perché non è automaticamente, ascolta, automaticamente sono partite le urla, gli schiaffi, uscita fuori, la gente fuori in fila per fare la confessione, tutto l'ambaradan. Io gli stavo menando, cioè nel senso, sono arrivato a menargli. Che chiesa è questa di Napoli? Che chiesa è? Si può dire, diciamolo, dai. Allora, ascoltami, allora, c'è una denuncia in corso, c'è una denuncia di più persone, ok? Quindi non faccio specificamente nome, ma ti dico, siamo fra Rione Traiano, Soccavo, Vomero. E chi sente all'ascolto sa di chi sto parlando. Sì, sì. Sa nomi e tutto. Allora, il concetto è, ti ripeto, questo è stato uno dei casi. Ora io non ce l'ho con i preti perché ci sta anche tanta brava gente, ma quello non c'è però l'unica cosa che mi sento di dire è, mi pare che la natura abbia creato l'uomo e la donna che messi insieme ne fanno un altro. Allora se tu decidi che liberamente, che nella vita non devi scopare, però poi dopo ti vuoi trombare i bambini, il mondo, questo e quell'altro, fratello caro, sono cazzi tuoi, per cortesia non andare a ledere la libertà. No, ma tu puoi anche avere questa, poi certo, questo hai ragione perfettamente, puoi anche avere questo tipo di vizio, no? Dovresti dimetterti da prete, guarda, diciamo così, ma soprattutto la cosa insopportabile, aspetta che abbiamo la pubblicità, aspetta, la cosa insopportabile è che ci siano dei vescovi che coprano questi signori a tutti i livelli, anche se scopi prete una donna, peggio naturalmente se lo fai con un bambino, questi devono essere cacciati immediatamente, punto e basta. È una cosa indegna la sua trasmissione. La Zanzara. Amici camionisti, ascoltate La Zanzara perché è un programma senza filtri. È tutto vero, non c'è niente di complottato. Allora, uno mi scrive: le obbligazioni le hanno firmate sotto minaccia di un'arma o le hanno firmate per il facile guadagno prospettato? A parte che il guadagno era, poi si è scoperto, assolutamente normale. Detto questo, per me non è che vanno risarciti questi qua, giusto per rispondere a questo, che si chiama Corrado, non è che vanno risarciti dallo Stato con i soldi nostri, assolutamente no, io sono contrario. Non erano speculatori, attento questi qui. Sì, no, però non vanno risarciti con i soldi nostri, per cui non le hanno... Sono stati truffati. Cioè non le hanno firmate sotto minaccia, non c'è dubbio, perché le hanno firmate volontariamente. Però se tu pensavi di comprare, la cosa è molto più semplice, perché tu pensavi sembrava di comprare delle cose sicure, il riso, e invece comprati TT, è evidente che sei stato truffato. Primo, secondo, quei titoli, quelle obbligazioni non devono essere vendute, ma lo dice la Banca d'Italia stessa. Sì, però. Sì, dai, forza, questi se la devono andare a prendere, ho capito, però poi non fai niente per controllare, qualcuno ci vuole, no, che impedisca questa roba qua, non puoi dire solamente... Ma la domanda è solo questa. Infatti, allora io dico una cosa: questi qua devono andare a prendere anche con i forconi i loro dirigenti che gli hanno venduto questa roba uno per uno e costringerli magari a risarcire loro. Andrebbero sequestrati i beni di questi qua, non quelli del papà della Boschi. Magari anche del papà della Boschi se ha qualche responsabilità. Quello ha già pagato 144.000 euro, no? No, ma dico, se la prendessero con quelli che hanno venduto materialmente questa robaccia. Pino d'Arezzo, 800 24 00 24, vai. Pronto? No, anzi, chi c'era? Quello da Napoli, se n'è andato? Se n'è andato? Ci doveva raccontare un'altra cosa. Richiamatelo dopo, dai, Pino, vai. Pronto? Ciao, sono d'Arezzo, ma guarda, su Banca Etruria non ci voglio entrare. Ce l'ho con Casaleggio. Cioè, dai, per piacere, datecelo a noi cacciatori, che se bracca noi, ma non gli si spara, Ci vago le mani, perché veramente quello che ha detto è una cosa vergognosa, offende migliaia di persone che vivono la natura in un modo incredibile. Coglione da con quel cappello, datecelo in un bosco, Cruciani. Beh, a me non me lo devi dire, a me. Cioè, questo mi pare eccessivo, Ma come eccessivo? Ma questo ci augura. Ma lo sai cosa fanno le palle di sale? Fanno venire le cancrene, una morte orribile. Questo ci augura queste cose, ma che venisse? Noi ci fa con le mani, con i scarponi. Cioè tu lo vuoi picchiare a mani nude? Sì, ma no, ti invito a venire a fare una battuta di cinghiale, così noi ci smettere di cacciare i cinghiali. Se caccia lui, poi si vede come se la cava nei boschi, no? Questo naturalista. Cioè tu dici la caccia all'uomo di Casaleggio, invece dei cinghiali. Ma se esce vivo, non è che dalla caccia esce vivo. Una bella esperienza. Ma esce vivo, magari no, cioè come, che fate, con le mani o con i fucili? Non ho capito. No, con le mani, con i cani, se fa correre un po' per il bosco, così si rende conto di quello che vuol dire essere un po' la natura. Se lascia lì perso la notte, a vedere come se la cava, che chiacchiera dai salotti, capito? Spara a sale, cacciatori, ma chi? Ma non lo so, magari sono solo sono solo metafore, sono solo provocazioni, no Parenzo? Magari non è una roba... No, in realtà è la sua visione del mondo, ma fino a quando rimane scritta in internet, sulla rete, non fa nulla di male. Cioè, trasformare i cacciatori in tappe di sale non è simpatico, questo no? Andrea Palermo, vai, Andrea! Andrea non c'è, Gabriele Firenze, vai! Sì, ciao, buonasera. Dimmi. Allora senti, niente, io sto male alla radio, ho sentito una notizia, tra l'altro da Don Gonzaga, Dognaga, come si chiama, che parlava che in Slovenia. Sì, sì, però amico mio, da dove stai chiamando? Da un antro nascosto, da una no, galleria, da una caverna? Cioè, hai viva voce, hai viva voce, no, che c'hai? No, vabbè, sono a casa mia. E che dobbiamo fare, dai? Vabbè, è così. Allora, comunque, al di là di questo, Slovenia, va bene? Paese laico, mitto d'Europa. Sì. A marzo fanno la legge sui matrimoni gay. Sì, adesso hanno fatto il referendum e hanno annullato, hanno detto no al matrimonio gay e all'adozione gay, giusto? Bene, però i giornali non hanno parlato. No, ma hai ragione su questo, ho letto oggi un qualcosa, credo, sul Foglio, non mi ricordo. Vista, no? Insomma, la cosa è che quando hanno approvato in Irlanda il matrimonio gay, credo pure l'adozione, non mi ricordo, con un referendum, tutti quanti, la gran cassa, eccetera. Adesso che in Slovenia, che è un paese comunque dell'Unione Europea, eccetera, eccetera, hanno detto di no al matrimonio gay, non ne parla nessuno. E vabbè, è così. È questa una notizia, no? Cioè, l'Irlanda è un paese cattolico, quindi la tradizione. No, ma per carità, ma anche la Slovenia, cioè, comunque hanno detto di no al matrimonio gay e all'adozione gay. Va benissimo, infatti deve decidere la gente. Cioè, hanno fatto il referendum lì, hanno detto di no. Pace, cioè, non c'è nessuna violazione dei diritti umani. Cioè, hanno detto di no le persone con un referendum, punto e basta. Ce lo facessero pure in Italia, una volta che fanno la legge poi si fa il referendum. Qualcuno sicuramente lo promuoverà il referendum. Dove andiamo? Ah, è ritornato Cristian da Napoli. Cristian, che volevi dire ancora? Ciao, ciao. No, volevo dirti solo l'ultima, che tu dirai, ma le sa tutte lui, ma a me è capitato, io ballavo salsa per andare ad acchiappare come tutti i ragazzi giovani, e c'è un prete che è dietro casa mia, perché ho due chiese vicine, tre chiese vicino, una sera vado a Salerno, becco lui che sta ballando salsa. E vabbè, non c'è niente di strano a ballare la salsa. No, fermati, cioè era in compagnia di una. E vabbè, ma è un prete allegro, diciamo. No, ci parlo perché ci conosciamo bene. Sì. E lui mi risponde, forse in modo un po' più coerente dell'altro che mette le mani fra le gambe, e dice: sì, sai, però io sono diventato prete perché amo Gesù Cristo. Amo la Chiesa, però no, Gesù Cristo non mi pare abbia mai detto che io dovevo stare da solo. Vabbè, questa una sua interpretazione, un'interpretazione personale. Perlomeno vai a scopare e non hai problemi a dirlo, e la ragazza lo sapeva. Cioè, la ragazza lo sapeva che lui era un prete. Perché lui mi ha detto: guarda, vuoi vedere la chiamata? E ho detto: guarda, tu sai cosa faccio? Sì, lui è un prete. Vabbè, ma è un prete allegro, come ce ne sono tanti. No, dico, però va meglio così. Cioè, nel senso, voglio dire, non fate gli animali come questo figlio di una buona donna. Perché capisci, no, che dopo diventa una questione, cioè che io ti devo prendere per forza a calci nelle palle, hai capito che cosa voglio dire? Cioè, non vi reprimete, se dovete vivere una vita di repressione per poi andare a rompere i coglioni a delle persone non normali, perché non la voglio usare sta parola, però fatelo almeno, cioè, ma alla fine che hai fatto? L'hai preso a botte sto prete o no? Io ho cominciato a prendere la botte, ma c'era un mare di gente e ci hanno separato. Ma non ho capito perché escono tutti oggi, guarda. No, ma non è solo tutti oggi, in questo caso è un prete che nel confessionale... No, stiamo parlando di un uomo di 50 e passa anni francescano, attenzione. E vabbè, è un francescano malato di sesso. E cioè, lo sanno tutti, perché la mia non è la prima storia, attenzione ragazzi, non è la prima storia. Ok. Meno male che non ha messo le mani addosso ai bambini, ma solo a tua moglie. Scusami. Insomma, meglio che non l'avesse messa neanche addosso a mia moglie. Ma prima di moglie... però vi sapete difendere, insomma, dai. Adesso non è che non esageriamo. Frate Francesca, non è che l'ha violentata. Ci ha provato, dai. Ci ha provato, però voglio dire, capisci, no, la situazione. Vabbè, sì, è sgradevole, però insomma, sì. Questo è quello che ci si può difendere. Vabbè, Cristian, ciao. Grazie ragazzi. Ciao. Manifestazioni animaliste ovunque, io non ne posso più di queste cose. È veramente una. Ma questa gente non ha veramente un cazzo da fare. Cioè, è pieno di manifestazioni ovunque. Vi ho parlato prima di una manifestazione a Parma. Mi dicono che ci sono manifestazioni in Italia o petizioni in Italia. C'è gente che sta lì a compulsare, tic tic tic, a fare petizioni di continuo. Per esempio, sui cosi, no? Sui. Come si chiama? Sui botti di Capodanno. Ora, per carità, io i botti di Capodanno li eliminerei. cioè io li odio i botti di Capodanno. Beh, ci sono infatti alcuni comuni che li hanno anche vietati. No, per me andrebbero vietati. Dunque, da questo, no, andrebbero vietati i botti di Capodanno. È una cosa terrificante. Quando mia figlia mi chiede ma si fanno i cosi di Capodanno, io dico guarda, io non li faccio, non mi interessa. Io non, io non lancio nemmeno un razzetto. No, io odio i botti di Capodanno, certo. Li odio. Anche i bengala, i bengalini lanciano. No, una cosa insopportabile, insopportabile. Molto. Ma... però tu sai che spesso succede, ad esempio, non vorrei che i napoletani si incazzassero, ma succede spesso, guarda caso, proprio anche a Napoli. Sempre dintorni. A Napoli, no guarda caso. No, io dico guarda caso, a Napoli, vabbè, dintorni. Sì. Qualcosa succede sempre purtroppo a Capodanno. Sì. Ah, d'altra parte Napoli oggi 101° posto nella, tra le città, no, come qualità della vita, signori di Napoli, 101° posto in Italia. Vabbè. Primo chi c'è? Primo Bolzano come al solito, sì, ma tanto sono sempre le stesse cose, da anni che c'è Bolzano al primo posto, signori di Bolzano. Vabbè, insomma, molti comuni vietano i botti di Capodanno perché fanno male agli animali. Perché non agli animali, sì, ti persone, giuro, fanno male, a parte che fanno soprattutto male alle persone, ma fanno male agli animali. Gente, botti... che alle volte gente che ci rimette una mano. Sì, vabbè, ma lascia perdere questo, un altro discorso. Beh, quello è fondamentale. Sì, ma no, ma per carità, va benissimo. Anche per no, questo sì, io proprio non sopporto l'idea. Gli animali si spaventano, questo è vero. Ma sti cazzi, ma chi se ne frega? Cioè, non è che tu per questo vieti i botti di Capodanno, secondo me andrebbero vietati, io non li sopporto, però capisco che è una mia cosa personale. Cioè, non è che non voglio imporre niente a nessuno. Il sopporto per una notte, infatti, sto in campagna lontanissimo dove non sento una mazza. Perché stare in città è terribile, esci fuori dalla finestra. Ma vuoi mettere che bello, scusa, prendere una bottiglia di vetro mettendo dell'alcol e poi lanciarla? Sì, che una volta si lanciavano, ti ricordi, in qualche posto si lanciavano i bidet, i gabinetti. È una cosa incredibile. Vabbè, incredibile, dai. A vietarli per gli animali vado ai matti. Allora, penultima puntata dell'anno, non poteva mancare, caro Parenzo, l'uomo come del ultima? Bidet. No, penultima. Ho detto penultima. No, innanzitutto, ragazzi, voglio dire una cosa. Stasera vi dovete collegare assolutamente con la 7, dalle 21.10, grande maratona, signor Parenzo. Grandi temi, collegamenti, servizi, no, servizi esclusivi. Stai dicendo? No, oh, cazzo, sto facendo pubblicità, mi rompi i coglioni. No, bravo. Che cazzo? Grandi collegamenti, bravo. No, non mi rompere. Le balle, servizi dai. Esclusivi, servizi esclusivi. No, presi anche con l'aiuto delle altre trasmissioni. Qualche, quindi... qualcuno, sì. Vabbè. No, Piazza Pulita, Gabbia. Allora, tutto. Abbiamo per ultima puntata della giornata Gianluca, buon anno! No, buonasera. Ciao a tutti. Il signore del bidet, come andiamo? Ma sì, sono a Bruxelles. Ma ci sono i bidet al Parlamento Europeo? No. Al Parlamento Europeo, dentro i grandi spazi enormi del Parlamento Europeo, non c'è un cazzo di bidet. No, nei bagni che frequento io, no, poi magari nel bagno. No, non ci sono, no. Non ci... Ma tanto lui userebbe comunque il lavandino. Userebbe comunque Parenzo, però avvicinati bene, non si sente la mazza. No, mazza. Dico tanto, comunque lui userebbe il lavandino, perché è uguale, quindi. Mamma. Ma è troppo alto. Non ci arrivo. No, per la faccia intendevo, che tanto è uguale. Per la faccia. Ma Parenzo, ma per una volta, ma fai il buono. Sono diventato buono io, fai il buono anche te. No, diventato buono, non sei diventato buono, dai. Adesso diventare buono mi sembra troppo, dai. Io voglio capire una cosa, scusami. Allora, non ci sono i cosi, non ci sono i bidet al Parlamento Europeo, giusto? Non sì, ci sono, dai, diciamo. Ma anche in giro per l'Europa. Vabbè, per l'Europa lo sappiamo che molti paesi non hanno il bidet. Cioè, per te. Che sono delle lezioni di vita. E non hanno i bidet, pensa te. Gli europei, non tutti gli europei. Beh, tu stai dicendo che i più puliti sono gli italiani, secondo te? Come... Secondo me sì, assolutamente. Cioè, noi sì, siamo i più puliti. In Italia ha tanti difetti, ma sicuramente nell'igiene siamo imbattibili. Cioè, ma tu, per esempio, quindi... i parlamentari europei, i tuoi colleghi, come sono? Li vedi ogni tanto qualcuno sporco che puzza, che non si pulisce? Vabbè, sì, qualcuno che puzza c'è. Qualcuno che puzza, quello che puzza più di tutti chi è? C'è qualcuno che proprio... Dai, no, su. Non so neanche i nomi, ti dico la verità. Cioè, puzzano, c'è... Però c'è... qualcuno che puzza c'è. C'è qualcuno che... Che non si lava, proprio, credo che non si lavi proprio. Ma anche qualcuno... degli italiani. Anche degli italiani c'è gente che non si lava? Sì. No, secondo me sì. Vabbè, quello italiano li puoi riconoscere allora, quelli che non si lavano. Sì, ma non so neanche il cognome, preferisco evitare. Ma però... dove? Nel PD? Che gruppo è? Vabbè, almeno facciamo questa cosa, dai. Dai, dillo, confessa no, questo. No, no, no, no, no, no, però c'è qualcuno che puzza, che probabilmente non usa il deodorante, non si, si lava cioè, poco. C'è gente che si lava poco e che puzza all'interno del Parlamento europeo tra i parlamentari italiani, insomma. Vabbè, anche tra gli italiani. Probabilmente del PD, diciamo, perché è il gruppo più grande, dai, sarà il PD sicuramente, o no? Ma ti dirò che non è del PD. Non è del PD, della Lega. Non è del PD, della Lega. Quindi guarda. Della Lega. Della Lega, non c'è il gruppo della Lega. Vabbè, ho capito, per intenderci, dai. No, vabbè, comunque diciamo che non è... non mi pare che sia del PD, quindi... Ma lo possiamo dire o no, il nome di questo qua che no, non si lava? No, preferisco di no, dai, se puzza ancora te lo dico. Vai. Poi comunque ce ne sono altre che puzzano. Parenzo, quindi... secondo te chi è uno che puzza al Parlamento europeo? Ma adesso sai, io non è che faccio la perizia, quando vado lì vedo uno e lo annuso, non genere, non essendo un cane... Ma se te lo trovi sull'ascensore cosa fai? Non è che puoi... Beh, non mi è mai capitato di trovarlo sull'ascensore, ma tu dici che è italiano, quindi non è dei partiti... È un maschio intanto, mi pare. No, allora, ne ho trovati diversi, ma diciamo che c'è un italiano, un maschio, non una femmina, sì. Che puzza. Puzza proprio, puzza proprio. Perché ero sull'ascensore, questo puzza, c'è uscito lui, non ce l'ha più volte l'ha incontrato sull'ascensore. E non è del PD. E non è del PD, dunque... Non è del PD, quindi guardate, non sono neanche... Il cerchio si restringe. Il cerchio si restringe. Neppure di Forza Italia? E di Forza Italia? Di Forza Italia? No. Non so se di Forza Italia, no. No, ma comunque. Ma è Gianlu, ma vediamo, si può dire, dai. Vediamo se si lava in futuro. Vabbè, si può dire, dai, su. Cioè, non c'è uno. No. Siamo sotto il Natale, facciamo i bravi. Ma no. La procura ha aperto un'inchiesta o no? Perché mai sai che apre un'inchiesta su tutto? La procura, dico, ha aperto un'inchiesta la procura o no? Scusa, no, ma se, no. Quando tu vai a cagare no, poi dato che dice la procura ha aperto un'inchiesta, dici, scusami Gianluca, no. Quando tu vai a cagare al Parlamento europeo, come fai? È un problema, ecco. Senza bidet? No, non ci sono i bidet, quindi io mi chiedo come fanno a pulirsi gli altri. Ma tu come fai concretamente? Cioè vai là al Parlamento europeo, vai al bagno? Evito di andarci. Cioè te la trattieni, non ti è mai scappata al Parlamento europeo in quasi due anni? No, mi è scappata, come credo a tutti, cioè non è... Non tu sei lì a Bruxelles, a Strasburgo, al Parlamento europeo, ti scappa di andare a cagare e non ci vai perché non c'è il bidet. Cerco di evitare. Ma dove la fai? Sui giardini fuori? Dove la fai? Sui giardini? No. Cerco veramente di tenere oppure poi di tornare... In albergo? Nell'albergo dove sono, sì. Sì, cerco di fare così, però è veramente uno schifo. Cioè, il Parlamento europeo che dà lezione a tutta l'Europa non è capace neanche di dare lezione a se stesso. Insomma, ma perché non fai una bella iniziativa? Mettere i bidet al Parlamento europeo, bellissimo. No, ho intenzione di portarne uno, di metterlo sul banco. Ma questo è stupendo. No, vero, sì. Ma questo l'annuncio già, cioè, voglio portare un bidet, ovviamente non posso portarlo grosso come no, ma compralo lì. Per i propositi per il buono, per il 2016, portare un bidet, no, come sul banco che ti serve, mica, cioè come dimostrare. No, porto il bidet, ma lo porto io all'interno del Parlamento per far vedere a tutti cos'è il bidet, perché tanti non sanno neanche cos'è. Ma stupendo, portare un bidet all'interno del Parlamento europeo, sarebbe una mossa geniale, devo dire la verità, Poi è difficile allacciarlo, però non potrei utilizzarlo, è una cosa dimostrativa, perché no, però lo posso far vedere. Lo puoi far vedere. No, ma la cosa interessante è sapere tutti gli oggetti che lui nel corso di questa legislatura ha portato, vengono poi via via sequestrati, immagino, no? Sì. Le magliette, cioè. Quindi sarà un costo per il Parlamento europeo, perché ogni volta tu anche alzi le pretese, quindi io voglio vedere questo garage dove vengono depositate tutte le stronzate che hai portato proprio. No, ma secondo me poi alla fine l'Italia le sequestrano, le tengono in un... Ma non è che te le fai rimborsare dal Parlamento europeo tutti questi gadget? Non è che li metti in nota spese e ci ritroviamo le tue sciocchezze da circo itinerante, ce le ritroviamo in nota spese. Assolutamente no. Parenzo, tu lo sai che oggi un signore ieri, oggi, eccetera, un signore che si autoproclama sultano del Brunei. Si autoproclama sultano. Normale. Non mi fa impazzire il sultano del Brunei. Ma chi cazzo è il sultano del Brunei? Uno vestito tutto da militare. Sì, un coglione, giustamente dice Bonanno, un coglione. Uno vestito tutto da militare con accanto una signora velata, che è la moglie o la figlia, non so che cosa. Il signor sultano del Brunei ha dato. Ma l'hai visto i vestiti? Sembrano una sfilata di carnevale. Ragazzi, però i telefoni devono funzionare, perché altrimenti questa la radio non si sente una mazza. Per cui avvicinatevi di più. Allora, questo qua vestito da carnevale. Brunevale, questo sultano del Brunei, sultano del Brunei, vuole dare il carcere a chi, non, a chi vuole, festeggia il Natale fuori da una casa privata, cioè a chi mostra simboli del Natale, capito? Cioè, il signor sultano del Brunei, una roba incredibile, dai, su, cioè. Che dici, certo, tu? Ma poi basta vedere come è vestito, cioè se tu metti i fari addosso a questi qui vestiti come il sultano del Brunei, la sua famiglia, e praticamente diventa come quelle palle che si usavano nelle discoteche, sai, che si illuminavano con la luce, non mi ricordo il nome, ma comunque luccicano tutti, no? E sono vestiti veramente da carnevale, e in più se uno che dice così è solo un coglione, sarà il sultano del Brunei ma è un coglione. Comunque è uno degli uomini più ricchi del mondo, cioè... sarà comunque un coglione, perché uno che dice che non... chi festeggia Natale e prende 5 anni di galera è un coglione. Sì, ma poi dicono noi che dobbiamo essere gentili e ospitali con i musulmani. Ma cosa c'entra? Ma tu sei d'accordo con Trump? Ma mica ti vorrei mettere in competizione con il soldato del Brunei? Cioè, non è che se uno fa una stupidaggine. Ho capito, ma questo qua è uno che è islamico, è uno degli uomini più uno dei più ricchi del mondo, vuole vietare, addirittura punire col carcere chi fa un presepe, che ne so, fuori per strada, o chi si mostra dei simboli del Natale, quello cristiano, eccetera. Gli anni di carcere, si potrà dire che è un coglione? No, cioè, ma senza ombra di dubbio, ma è un criminale più che altro. Dopodiché non è che mi paragonerei quando Bonanno dice ma loro lo fanno, ma che cosa vuol dire? Noi accogliamo tutti, non vuol dire niente. Loro fanno una cosa incivile. La differenza è questa, che se noi siamo, diciamo, civili, qualcosa di brutto, passiamo per razzisti. Questo può dire e può fare 5 anni di galera per uno che festeggia eventualmente il Natale. E cioè alla fine passa tutto come acqua fresca, no? Beh, ma guarda che noi, dicendo che vogliamo proibire, in Italia non dovrebbe più entrare, se mai vuole. No, ma se noi voi peraltro, pare che ci fosse anche la cosa all'Expo del Brunei, del sultano del Brunei. Tu dici non dovrebbe più entrare in Italia, tu dici bloccare. No, figure, no. Ecco, lì la legge Trump andrebbe bene. Tu hai signor detto Trump, così, ma Trump tu sei d'accordo quando dice che bisogna bloccare tutti i musulmani, cioè proprio ad alzo zero, qualsiasi musulmano per motivi di cauzione non può entrare in America, lo faresti in Italia? No, però gli farei fare una dichiarazione dove accetta i nostri usi, costumi e tradizioni. Vabbè, ma che ci vuole a fare dichiarazione? A firmare il foglio? No, comincia a firmare una cosa dove dici determinate e sottoscrivi. Cioè, secondo te uno deve dichiarare di essere musulmano quando entra in Italia? No. Cioè, sennò come fai a saperlo? Non è che No. Ovviamente dal passaporto tu puoi chiedere sei musulmano, quindi sì, allora sottoscrivi che comunque accetti le nostre regole. E se uno dice di no, cioè non è che lo puoi sapere. Allora dici di no, dici guarda, allora che qui non è il tuo posto. No, ma se dici di no, vabbè, ho capito, ma è complicato. Non è che se uno se si va a dichiarazione, vabbè, fermi là, guarda, fermi. Che oggi nei paesi arabi ti prendono non l'impronta digitale con un dito, tutte e 10 le dita. Tutte e 10 e ti fanno fare la trafila e devi chiedere invece? prima di andare. No, questi qua invece fanno quello che hanno voglia, ci possono anche, adesso dico del Natale per questo qua, ma per tante altre situazioni noi dobbiamo far finta di niente. Tra l'altro mi dicono che il sultano è amatissimo dal suo popolo, questo coglione del sultano del Brunei, questo vestito come un giullare, e paga stipendi milionari ai suoi dipendenti. Ma roba incredibile. Io farei l'invasione del Brunei, lo sai, ma perché esiste il sultano del Brunei? Perché uno non fa l'invasione e ci pigliamo tutti i soldi di questo imbecille? La Zanzara. Ascoltando la sua trasmissione, noto nella sua persona un continuo tono strapotente e di superiorità. Le fai tu, vabbè, dai, giornalista, dai, la radio la fai tu, sei tu il fenomeno, parli tu, ok. My sweet Louise, my sweet Louise, sweet, sweet, sweet Louise, my sweet Louise, my sweet Louise. Comunque ragazzi, questo signore, mi dicono sia il proprietario, anche il sultano del Brunei, del principe di Savoia, Parenzo? Ah, dicono il principe di Savoia, adesso non so se quello sia... di Milano. Sì, sì, quello di Milano, assolutamente. No, cioè... ma appunto, vedi, questa però è aspetta, però aspetta, è una roba vecchia, non so se sia ancora. Cioè sarà, una... socio, avrà delle quote probabilmente. No, so, ha un sacco di affari in Italia, sicuramente. Cioè nel 2003 acquistò il principe di Savoia. A quello lì se gli girano le palle e metti ci lascia in braga di tela, dici secondo te? No, acquista la radio. Sì. Acquista la radio, invece fa la zanzara in arabo, in sì. arabo. Poi sei bisogna vedere se gliela vendono naturalmente la radio. Sì, quello arriva lì con i soldoni, non gli vedo la radio. Vabbè, ma ho capito, ma ha maggior ragione. Se hai interessi in Italia, che bisogna fare, Buonanno, con il signor Sultano del Brunei? No, ma cioè, vedi che però ci va subito il denaro. Cioè, siccome questo è ricco, si può permettere di dire che il Natale non si deve festeggiare, fai 5 anni di galera, perché è ricco, perché altrimenti lui viene in Italia e fa questo e quest'altro. Ma io direi... se lui è ancora proprietario dell'hotel lì a Milano, del principe di Savoia, non andare più. Tu sei un coglione che dici queste cose e tu qua non sei degno di rimanere, vai a spendere i tuoi soldi da un'altra parte, pulisciti il sedere con i tuoi soldi. Questo direi io. Ma poi ad esempio l'uva sultanina ti arriva dal sultano del Brunei. Ma non lo so, perché dici? Perché dici? Ma non so. Il sultano del Brunei, no. Parla lui, parlano tutti. Ma io veramente. Ma che sono c'entra lui? Che c'entra lui? Ma no, sultanina. Mi è venuto sultano sultanina. Ma dico questo: io non credo di essere razzista, penso davvero di non esserlo. Però quando sento quelle cose lì mi fa diventare razzista. E cioè dico: tu dici così e tu qui in Italia non entri più. Cioè, tu dici anche se sei pieno di soldi. Requisire tutte le proprietà del sultano del Brunei in Italia, tu dici. Ma farei un'azione per dire, tu qua non entri più, tieni i tuoi soldi, ma c'è anche una dignità. E l'Italia deve acquistare questa dignità. Senti, ma Gianluca, ma sono curioso di sapere, tu hai dei ma trascorsi... Ma si compra tutto, ma va allo stesi in 2 minuti, ti rendi conto? Cioè, no, però lì... non può comprare la dignità, può comprare quello che vuole. Però se viene anche sul sultano di Brunei a Brunei, la prima cosa che farà il sultano e mi dice una cosa, io lo mando a fanculo. No, ma io dico questo, qualora il sultano dovesse comprare Valallo sulla città di Valallo, spero che cambi i cassonetti di quella città, perché non ci sono più cassonetti, abbiamo il porta a porta. Bravi, no, perché venivano violentati dai alcuni cittadini, violentavano i cassonetti nel tuo paese. Cioè, questo accadeva. Senti, Gianluca, io non ho capito una cosa, ma tu i radicali stanno facendo questa cosa di consigliare addirittura di pagare le persone per andare a morire in Svizzera. Ma tu se fossi in una situazione drammatica, diciamo, per carità, non te lo auguro naturalmente, ma un brutto male che ti sta divorando, non ne puoi più, tanto hai la sorte segnata, che faresti? Allora, se le ho provate tutte, so che non ho prospettive. Sì, vabbè. Io chiederei di andare a fare l'eutanasia, sì. Ah, sei a favore dell'eutanasia dunque? Cioè sei a favore del fatto? Sì. Cioè andresti in Svizzera? Credo che ognuno sia libero di scegliere dalla sua vita e quindi è giusto che se uno si sente che non c'è più niente da fare, che sta malissimo e che vuole fare una fine come l'eutanasia, io sono favorevole. Dunque tu affideresti, diciamo, no, ti faresti portare in Svizzera da un radicale o da a morire in un centro svizzero? Cioè, magari ci vado anche da solo, però se avessi bisogno di informazione non avrei nessun problema a chiedere ai radicali qual è l'iter. Dunque sei con loro in questa battaglia sull'eutanasia, sulla morte? Io sono per la libertà di ogni singola persona. Se una singola persona decide di fare una determinata scelta, perché no? Cioè ti faresti portare come ha fatto quella signora lì che era, come dire, agli ultimi giorni, alle ultime settimane, forse decidere come morire o no, cioè al di là. Ma a me lo dici, cioè, prezzo, hai visto, c'è una cosa su cui sei d'accordo con Morano, ma guarda, come ti ho detto anche altre volte, un orologio rotto 2 volte al giorno l'ora esatta la dice, quindi le persone totalmente imbecilli, salvo alcuni casi, non esistono e un barlume di intelligenza rimane, io lo do il beneficio a chiunque, e ha dimostrato alla vigilia del Natale di aver detto una cosa umana, saggia, umana se non altro, non saggia, umana. Posso dire un'altra? Sì, dimmi un'altra. Prima tu, adesso faccio scatenare un po' di casino, prima tu hai detto sulla questione delle classifiche Napoli, sì, 100 sì, passa, Bolzano prima, e tu hai detto prima è sempre Bolzano, lo sappiamo già tutti gli anni. Sì. Ma quello è fare, scusate il termine un po' volgare, ma la battuta. Vabbè, ma sai è che come qui... fare il finocchio col culo degli altri. Cioè? Se Bolzano, io faccio il sindaco, se avessi i soldi che prende Bolzano tutti gli anni che detiene sì, è vero, è vero, lo Stato. È vero, è vero. Sarebbero tante le città in Italia che potrebbero anche passare alla lucidatrice e mettere l'aria condizionata sulle strade, adesso lo dico delle cretinate per far capire. Sì, sì, no, ho capito. Comodo arrivare primo che ti arriva un sacco di soldi. Cominciassero anche loro a fare come facciamo noi. Sì, no, ma su questo non c'è soldi, dubbio. Oppure che lo Stato dia più soldi a noi. Senti, un'ultima cosa, ma tu come la chiami il Presidente della Camera? Come lo chiami? Il Presidente o la Presidente, signora Boldrini? Ah no, io ho fatto una polemica quando ero deputato italiano perché aveva fatto cambiare tutta la carta intestata. Però io dico questo della Boldrini. Lei si vuole far chiamare la Presidente. Sì. Però chi ci dice che prima di Laura non si chiamasse Lauro? Cioè, scusa, non ho capito. La Presidente o il Presidente... Cioè, secondo te non è sicuro che è una donna? No, non so, io no, di sicuro non glielo posso dire se è uomo o donna. Cioè tu non sei prima... prima del prima... sembrerebbe donna, però ce ne sono tante che sembrano donne e poi sono uomini, quindi... Sì, dici, soprattutto nel suo partito, dici? Vabbè, lei arriva da Sodomia e Libertà, si chiamava prima adesso Sinistra Italiana. Ma no, non si è mai chiamato Sodomia e Libertà. Sì, il soprannome era Sodomia e Libertà. Cioè tu dici che non è sicuro il sesso della Boldrini? No, tu dici non puoi mettere io sono donna. Lo dimostri. Lo dimostri che non so io, perché sì. A questo pallino la Presidente, ma che cacchio ce ne frega, i problemi degli Italia sono ben sì, diversi. Ho capito, però scusa, ma secondo te tu stai mettendo un dubbio sul fatto che la Boldrini sia donna? Tu dici come fa a dimostrarlo? Cioè è donna, cioè non è che uno può è donna, ce lo dica, cioè non lo so, io porti un certificato, dica qualcosa. Ma cioè questo pallino la è come se io ogni volta sono maschio. Beh, sono maschio, è già scontato che sono maschio, quindi se davvero una brutta persona, la chiamano il Presidente, non è che si deve offendere, no? Davvero una brutta persona, una vergognosa brutta persona. Che ha fatto, scusa, sta dicendo? Scusa, io chiamo Lauro adesso. Lauro, no, guarda, io non è che Lauro Boldrini. No, io non è che difendo la Boldrini perché è la terza carica dello Stato, questo non mi interessa. Ma lui sta dicendo carica. Che nel partito io della Boldrini. La persona, nel partito non la lui sta dicendo che nel partito della Boldrini. No, lui dice delle porcherie. No, delle porcherie. Ma che porcherie? Sta dicendo che nel partito della Boldrini. Offese inaudite di cui si dovrebbe vergognare. Senti, Luxuria da dove arrivava? Luxuria da dove arrivava? Facciamo sì, un caso eclatante. Arrivava da lì, sì, no? Da più o meno da quel partito, no. Lì sì, più o meno da quella, sì, da quell'area lì, Vendola, no? Eccetera, sì, Vendola. Poi ce ne sono tanti altri che io vedevo lì in Parlamento che ogni volta che parlavano solo di matrimoni gay, di adozione gay. Cioè tu stai dicendo che venendo da quel partito, che ne sappiamo che non si chiama Lauro, no? Che che ne sappiamo? Cioè c'è un dubbio, visto che lei mette in dubbio tutte le cose, là, lì, il, eccetera. Ci dimostri che è donna, allora tu ti chiami Lauro. Cioè, ci dimostri che è donna, tu vuoi dire, no? Prima deve dimostrare, prima di essere chiamata la Presidente, io non la chiamerei. Un certificato ti dimostri questo. Anche nello sport l'hanno fatto, perché c'erano donne nell'atletica, sì. Che non si capiva più se erano uomini o donne. L'avete sentito, credo un anno fa c'era stato uno scandalo. Sì, e ha dovuto sì. Presentare il certificato. Vabbè, adesso non è la stessa cosa, la signora. No, non è la stessa cosa, ma visto che lei si impunta su questa roba come se... Ci dimostri che è donna, sì. Ci... Per Superman. Sì, sì. Ci dimostri che è donna, deve dimostrare che è donna. Dimostri che è donna. Vabbè. Un bel certificato, lo metto lì, lo attacca lì alla Camera dei Deputati. Però il dottore che non sia di... No, vabbè, ma voglio dire, ha offeso una persona, non una carica. Ma no, io non ho offeso nessuno. Ma come non ho offeso nessuno? Almeno rendersi conto della porcheria che hai detto. Ma sta dicendo che deve dimostrare che è una donna. Cioè, ma no, questo non si dice neanche per scherzo, ma neanche al peggiore dei nemici. Cioè, ma perché? Perché è un'offesa, se non ti rendi conto che questa è un'offesa, ma perché? Cioè, offendi la dignità della persona e non mi frega nulla, no. Che può essere anche l'usciere di Montecitorio, di Palazzo Chigi o l'usciere di casa mia. No. Quindi non è il fatto. Ma perché è un'offesa, scusa? Cioè, allora non ti io rendi penso conto che siano gli italiani che si offendono ogni volta che oggi questa palazzo sei fatto sera se non della ti sei Presidente. La faccia. No, ma scusa, è la carta intestata che ha fatto cambiare a tutti. e tutte le cose che riguardano la Camera dei Deputati, se non ti fanno vergogna, agli italiani, ma se non ti fanno vergogna a te le offese che in questo momento hai fatto, io penso che ai 2 milioni di persone che ci stanno ascoltando, su 2 milioni la grande maggioranza delle persone in questo momento la pensano come me, ci stai, no, non gliene frega niente della Boldrini e delle sue cose, pensate a fare le cose che servono. No, guarda, al di là di quello che uno può pensare delle battaglie della Boldrini, al di là di questo che Va bene, mi interessa, secondo te sta offendendo la Boldrini, secondo lui la persona. Vabbè, ciao Gianluca, ciao. Non sto offendendo nessuno. Ciao. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. La Zanzara. Che meraviglia, io sono pazzo di voi due. Se fossi nata donna non saprei da chi farmi corteggiare e che avrei corteggiato. Allora andiamo a Milano, Alessandro. Vai Alessandro, vai. Buonasera, niente, un consiglio logistico a Cruciani in particolare. Sì. Anziché andare ogni volta in Svizzera, che magari c'è un po' di strada da fare, il casello e l'albergo, sì, Viale Monterosa, quando finisci di sì, la trasmissione, sì, c'è un po' una discreta qualità, nel senso che ci sono 2 o 3 ragazze, sì, che ricevono in casa, che secondo me non sono neanche male, non arrivano a quelle del Globe, perché lì siamo proprio, cioè io non ho capito una cosa, scusami, tu stai dicendo che come è noto, perché l'ho raccontato più volte, che via Monterosa, dove ha la sede questo prestigioso emittente che è edita da una associazione Parenzo che si chiama Confindustria, no? Sì. Confindustria, nello stesso... anche se vuoi un'ottima associazione, se vogliamo anche aggettivarla, sì, associazione di industriali italiani, di imprenditori italiani, ha una sede in via Monterosa 91, 2149, sì, Milano, nelle vie Attigue, nella stessa via Monterosa, sì, ma questo è stato, come dire, già più volte raccontato dal sottoscritto. Io, siccome ci passo la notte ascoltandomi in replica, sì, allora è pieno, di solito è pieno di prostitute, è pieno di prostitute, sì, stranamente, cioè stranamente uno dei luoghi, diciamo anche se vuoi della città qui di Milano, borghesi, no, c'è una sì, cittadina, c'è un quartiere anche dove le case costano eccetera, forse anche per questo, sì, soggiornano delle signorine, forse c'è stata qualche, perché che hai notato Alessandro, non ci sono più, che sono diminuite, vabbè, amico mio, però io che cosa posso fare, non so, non vorrei che magari siete voi che ci andate con la vostra bella faccia e li fate scappare. No, facciamo scappare adesso, non credo, dai, questo non credo, come direbbe il nostro amico, questo non credo. Ma si può fare qualcosa per farlo? Ma no, amico mio, posso fare qualcosa, io non so cosa posso fare, 2 o 3 volte ho cercato di reclutare queste signorine e portarle qui alla radio, tanto per attirarmi qualche simpatia, a parlare della loro storia, della loro... ma quelle giustamente secondo me vogliono essere pagate, cioè non vogliono perdere tempo. Sì, hai ragione, infatti avrei dovuto pagarle. Che l'unico problema non sia quello, come dire... no, poi non vogliono nemmeno parlare in realtà, anche se le paghi non vogliono parlare, perché quelle sono pagate non per fare i comizi, appunto, alla radio, esatto, ma per trombare. Esatto, è il punto. A meno che tu non gli dia che so io 200 euro, non so il tariffario, sì, incentivante dire venite a parlare alla radio della Confindustria. Quelle dice no, noi puttane, e tu cosa gli dici? Dici sì, certo, cioè... No, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, è così. Anzi, tu fai anche interruzione di pubblico servizio da un certo punto di vista. Beh, forse hai ragione su questo, lo sai che non ti posso dare torto. Perché interrompi, è come se uno ti interrompesse la trasmissione. Sì, come dire, è nella loro discrezione, no? Cioè, possono decidere tranquillamente di venire o non venire, infatti non sono venute. Alessandro da Treviso, vabbè Alessandro, non posso fare nulla però, Alessandro da Milano, sto dicendo, non posso fare nulla per te, non posso... Se volete faccio un appello, care signorine, se siete all'ascolto, perché non venite di nuovo a popolare queste vie intorno alla prestigiosa emittente Radio 24 del Sole 24 Ore, sita in via Monterosa 91, perché ci sono delle persone come Alessandro da Milano che la sera passano da qui e evidentemente vogliono o vedere o andare. Tu che cosa vuoi fare Alessandro, solo vedere ma o andare? Ma tutte e due, perché per noi è ingiusto doversi fare 250 km, farsi il costardo, che è un ma tunnel, scusa, che mestiere fai amico mio? Io faccio un mestiere per cui lavoro di notte, e lavoro notturno, per che cui fai? Finisco all'una di notte, l'una e mezza, non preferisco, ma che fai? Non rivelarlo. Ma preferisco non rivelarlo, ma che mestieri fate? Che gente chiama qui, Parenzo, che gente chiama, che gente chiama, amico mio, che e dopo gente uno chiama, finisce il lavoro e trafficanti, narcotrafficanti come l'altro giorno, frequentatori di prostitute, frequentatori di bordello, mitomani, pazzi. Ma siamo i migliori noi. Che Alessandro, che sei un malvissuto pure te, un porco? Quasi, no, lavoro lavoro nello spettacolo. Lavori, vabbè, ho capito, ma lavorare nello spettacolo non è come lavorare nella mafia, nell'andrangheta, oddio, qualche volta anche, però insomma, per cui non vuol dire che cosa fai, vabbè, comunque. Finisco di notte, quindi finisco di notte. Ciao Alessandro, ciao. Traffico veicolare. La Zanzara. Continua la saga del bidet, caro Parenzo, 393-71-71-701. Ciao Cruciani, io volevo dirti che nella mia esperienza in Francia ho notato che gli unici che non avevano il bidet erano una famiglia di origine italiana, anzi un'italiana trasferita lì. Le altre due signori francesi che mi hanno ospitato avevano il loro bel bidet, anche se la scomodità è che loro hanno il cesso separato dal resto del bagno e quindi è un po' scomodo perché uno deve prima fare le cose in bagno e poi andare di là a lavarsi. Vabbè, ciao. Cari ascoltatori che volete fare una denuncia alla Zanzara, sappiate che a me interessa moltissimo come Giuseppe si fa il bidet, moltissimo. A me interessa che ti lavi il culo, a me interessa! Dovresti fare come facciamo noi in Argentina col bidet, ci avremo lo spruzzo che va dal basso verso l'alto, non abbiamo il bisogno di mettere il dito nel culo come i Cruciani. È uno spruzzo anale, una pioggia anale dal basso verso l'alto che pulisce in automatico utilizzando la forza dell'acqua l'ano al di là della consistenza della rimanenza anale. Capito Cruciani? Cruciani, io non lo so, ma da quando sono nato io la carta non l'ho mai usata. Dal momento che c'è un bidet, ma a cosa serve? A me proprio non mi riesce di capire. Cruciani, quando io mi pulisco il culo vado veramente in profondità, fin dove riesco ad arrivare? Cruciani, anch'io me lo lavo come te il culo, proprio come te, mani e via. Se esistessero solo bidet e niente carta igienica, per me non sarebbe un problema. Ma che seduta occidentale, ma che cazzo stiamo dicendo? Ti ho detto come bisogna fare. Ti siedi, dilati bene il culo con le mani, caghi, aspetti un po', fai rientrare dentro i pezzettini di merda che sono lì, stanno per uscire, aspetti, loro rientrano, ti pulisci con la carta igienica ed è completamente pulita. Che seduta occidentale. Le grandi abitudini degli italiani. Beh, devo dire che questo tema mi appassiona particolarmente. Si chiude l'anno in bellezza perché è la vita quotidiana degli italiani che viene fuori da queste cose. E devo dire, Parenzo, ti voglio consigliare un libro, che è un libro di filosofia, sì. Un libro di un grande racconto di una signora che ha studiato lingue a Oxford e ha conseguito nel 1994 un master in politica internazionale. Si chiama Il grande bisogno, questa qua si chiama Rose George, edito da Bompiani. Il grande bisogno è di qualche anno fa, ma lo puoi trovare tranquillamente, io me lo sono fatto spedire. Il grande bisogno, perché non dobbiamo sottovalutare l'ultimo tabù, la nostra cacca, così si chiama questo libro. È un grande racconto di come noi smaltiamo i rifiuti. Ovviamente ci sono i robot giapponesi, ci sono le situazioni incredibili del terzo mondo, dell'India, eccetera, straordinario. Dunque non è un argomento così, diciamo, cheap, non è un argomento cheap, cioè il mio sedere, e c'è anche quello, ovviamente, perché sono le nostre abitudini, ragazzi, è la vita quotidiana di tutti i giorni. Dove va a finire la nostra merda? Parla di questo, ovviamente, come ci si pulisce. Cazzo, non mi fate arrabbiare, No, figurati. Ti ho convinto o no? Non ti ho convinto. No, non mi hai convinto. Mi hai convinto sulla necessità che nel nostro intimo trattiamo questo tema. Ma no, ma magari... è un tema pubblico anche. No, ma lascia perdere. Che tu non voglia dire. Che tu non voglia dire. No, ma che escamotage per come dire migliorare la nostra. No, ma che tu non voglia dire come lo fai. Io lo capisco. Ma che non sia un tema importante. Che non sia un tema. Che tu non voglia dire come lo fai. Io questo lo capisco. Ma che non sia un tema. Dico anche i bambini. Vi posso raccontarti questo. Mio figlio, visto che ti piace l'argomento. Mio figlio piccolo che ha 2 anni e mezzo. Sì. Anche lui ha, in genere i bambini non hanno problemi, anche lui ha, come dire, una emozione quando parla. E infatti un'emozione quando caga? Sì, quando parla. Vabbè, ma certo, ma è normale. Io la chiamo la cacchi, se vuoi sapere, no? Vabbè, ma quella con i bambini. Fatto... No, lui cammina e dice. Ma perché non dici la cacca ai bambini? Cacchi. No, la gli cacchi. Dico cacchi, hai fatto cacchi, amore, gli dico. Ma perché cacchi? Sì, ma che è sto termine? Cacchi, cacchi, papà, cacchi, cacchi. Vabbè, certo, cacchi. Perché la cacca è una liberazione per i bambini, no? Come per tutti, peraltro. Sì, sì, cacchi, perché non va mentre la fa, e questo te lo voglio dire perché può essere utile. Mentre la fa, peraltro, lui si mette in piedi. Sì. E non vuole essere guardato perché se beh, tu lo guardi ti imbara, è normale, ma certo. Siccome è normale questo è portato alla nostra trasmissione, ma no, ma non c'entra niente questo, oggettivamente allora, non c'entra, è normale, è normale perché è una cosa intima di cui non si parla, ma io no? Ma non è vero, questo non è vero. Vabbè, in questo io caso no, sto guardando mio figlio, dice lui quando la fa si sposta, si mette come dire, no, vuole stare da solo tranquillo, ma certo, cacchi. Assolutamente. E dopo viene e dice papà cacchi, e papà prendelo cacchi, ma tu ti sporchi anche con la merda di tuo figlio? No, perché ormai è il secondo. Ti sporchi pieno di merda di tuo figlio, no, delle mani. No, è il secondo ormai, adesso arriva anche il terzo. Cioè non ti sporchi, non ti sporchi con la cacca di tuo figlio? No, lo so cambiare perfettamente. No. Lo so, no. Vabbè, no. Ma che c'è? Può succedere comunque che uno si sporca, no? Vabbè. Beh, è successo una volta che mi ha fatto la via addosso, ad esempio, quello sì, perché. Vabbè, quello lì, è normale, dai. Sì, normale. Appunto, quello è normale. Però. Allora, abbiamo con noi un personaggio, però, caro Parenzo, che. Sai, io voglio... tra poco ti devo salutare. Sì, lo so. Tranquillo, tranquillo. Adesso. Chi c'è adesso? No, chi no, c'è? aspetta un attimo. Io ho visto delle foto incredibili su Facebook di un signore tutto bendato. Se tu devi fare un regalo di Natale, caro Parenzo, ti do un consiglio. Sì. Ma fate presto. Cosa? Fate presto? Che? Fate presto, è Natale, fate presto i regali, fate presto i regali, certo. Che vuol dire fate presto i regali? Fate presto, quei due disgraziati, fate presto. Allora, io dico una cosa, c'è... Ma perché non abbiamo mandato in onda? No, scusami, siamo in diretta? Sì, sempre. Aspetta un attimo, dai, però perché fammi... Perché non abbiamo mandato in onda il discorso del direttore oggi, ad esempio? No, perché, ha detto... Mi dispiace che oggi non sono stato presente al Brino. Vabbè, di... Ma chi se ne frega? Dai, ragazzi, ma però parliamo di cose normali. Discorso... No, ma perché ti parli addosso? Ma chi se ne frega? Dai, su! Da mandare in onda. Sì, vabbè, fate presto. Fate presto, dai. Degli auguri. Allora, se ti vuoi fare un regalo di Natale, ho visto io che c'è ancora un po' di pancetta, no? Io? Sì, ancora un po' di pancetta. Vai in palestra, no. Però c'è ancora un po' di pancetta. Ti do un consiglio: puoi toglierti tutto. Ti puoi togliere tutta la pancetta che hai, tutta. Cioè? Io non ne ho bisogno. Però tu invece ti puoi togliere tutto attraverso un'operazione. Puoi fare un'operazione. È un regalo di Natale che ti puoi fare. Se l'è fatto il regalo di Natale un chirurgo plastico che si chiama Giacomo Urtis. Ciao Giacomo, ciao. Ciao ragazzi. Ciao Giacomo. Le ultime Ciao. Lettere di Giacomo Urtis. Bravo. Allora, io non ho capito, Giacomo, ti sei fatto questo regalo di Natale, giusto? Sì, oddio, sono ancora in ospedale adesso. In ospedale? Sì, mi dimettono domani ancora. Cioè, allora, che cosa ti sei fatto? Spiega a Parenzo che c'è ancora un po' di pancetta. Esattamente, cosa hai fatto? C'è gli addominali nuovi come tartaruga? Bravissimo, praticamente ho fatto una sorta di nuova liposuzione che... toglie completamente il grasso e fa vedere finalmente i tuoi addominali, perché in realtà gli addominali ce li abbiamo tutti, solo che sono coperti da strati di grasso. Cioè, allora, quindi, tu ti sei tolto, quanto grasso ti sei tolto, amico mio? È un quasi 9 litri. 9 litri, cioè che vuol dire 9 kg praticamente? Sì, bravo. Cioè 9 kg di grasso c'erano nella tua pancia, solo la pancia? No, ho fatto pancia, pettorale, braccia, schiena e glutei. Pure i glutei, pure il culo ti sei rifatto? No, il gluteo l'ho fatto un po' più carino, con il diamante ho fatto, cioè perché una specie di V all'inizio della riga. Ma ti sei fatto pure lo sbiancamento anale, no? No, quello no. Non ti sei fatto nessuno sbiancamento anale? Però ecco, no, al di là di tutto è un intervento serio da fare. No, ma io lo so che è un intervento, ma quanto hai speso? Quanto hai speso per sta roba, scusa? Non per farmi i cazzi tuoi. Vabbè che sono amici, immagino, però comunque. Sì, no, gratis, amici, quindi, a gratis sì, te l'hanno fatto. Sono persone che lavorano con me, quindi no. A gratis. Io sì è come... Ma quanto costa una persona normale, Parenzo, che si vuole rifare un intervento del genere? Costa sui 35.000 euro. Parenzo, ce l'hai? Ma no, ma a parte che non li spenderei mai per rifarmi. Perché dai, io... fatti un bel addominale a tartaruga, a forma di tartaruga, stupendo. Rimangono per sempre. Se papà e mamma mi hanno fatto così. Vabbè, ma che c'entra quello? Ma quello non c'entra una mazza, scusami. A più di qualcuno è piaciuto, quindi vuol dire che il prodotto non è così da buttare. Se a più di qualcuno è piaciuto, sì, però... l'unica cosa che posso fare è fare un tagliando, cioè fare un po' di sport per non invecchiare. Ma tu non ti faresti non ti faresti belli addominali come si è fatto adesso Urtis? No, ma sai che io ho anche paura a farmi mettere le mani addosso, nel senso che ho proprio paura di questi della in generale, non della chirurgia. Cioè, ma io non ho capito il culo a forma di diamante, però, scusami, gli addominali lo capisco, cioè vengono alla fine come una tartaruga, ma il culo a forma di diamante che vuol dire? Nel gluteo, sai che c'è la riga, nella parte superiore fai una piccola V che si chiama diamante. Ah, il diamante, cioè, viene il culo a forma di diamante in pratica. Più o meno. Il culo a forma di diamante, capito Parenzo? Il culo... Ma quello per le persone che... Non riesco neanche a immaginarlo, per la verità. Cioè, per gli omosessuali, come tu sei, caro Urtis, per gli omosessuali, per carità, io ho tutto, sai che adoro. Può essere utile. Assolutamente, può essere utile anche per persone che ci stanno ascoltando. Può essere utile o no? Cioè, serve a una persona che tu sei... Oddio, no, è per guardarti, per... insomma, per piacersi. Per essere più carino, sì. Vabbè, per cui per piacere... Allora, questo tipo di intervento si fa per, a parte per dimagrire, essere asciutto, eccetera, ma anche per avere molto meno grasso, e quindi puoi mangiarti anche quel piatto di pasta in più che non ingrassi. Cioè, io dico 35.000 euro, signori. Urtis l'ha fatto gratis perché, vabbè, lui è del mestiere. Gratis, cioè. Gratis no, delle spese le devo pagare. E che devi pagare? La clinica la devo pagare. Ah, beh, la clinica, sì, certo, non c'è dubbio. Però quello... comunque, insomma, l'intervento è stato gratis. 9 litri di grasso, addominali nuovi, culo a forma di diamante, tutto questo per piacere. Che ancora non ho postato per scaramanzia, perché già ce li ho perfetti. Ma tu scusa, per curiosità, siccome ho visto adesso su internet delle foto in cui tu sei col signor Corona, pure lui hai ritoccato recentemente? No, quello è sempre stato magro, quello è nato magro. No, ma tu l'hai ritoccato, hai fatto un ritocchino al signor Corona? Ma no, fa un po' di manutenzione. Ma dai. Anche adesso l'hai fatto? Recentemente, signor Corona? No. No, ha cambiato chirurgo, mi sa, ha cambiato chirurgo. Mannaggia. T'ha tradito. Le corna. T'ha messo le corna. Sono cornuto. T'ha fatto cornuto. Yeah. Vabbè, comunque, la questione è questa. Alla fine, ma mangiare di meno no? Cioè, attività fisica no? Cioè, questo è... Ovvio, quello sempre. Questo qua è solo un aiuto. Sembri un mostro, tutto imbacuccato. Lì c'è tutto. Insomma, poi devi vedere sotto, che ancora non ho messo la foto quella. Ma perché adesso come sei? Che c'hai adesso? Ancora tutto. Purtroppo c'è ancora le fasce che servono appunto per far aderire la pelle al muscolo. Quindi adesso sembro l'omino della Michelin. Mamma mia, Parenzo, mai visto queste foto terribili? Cioè, l'ultima. No, adesso che me lo dici nel corso della giornata, chiedo scusa, ma mi sono occupato di altro. Però adesso che me lo stai dicendo, sto compulsando alla rete. Sì, la rete. È un demonio ormai, è entrato dentro di me. E sto cercando di vedere questa cosa di diamante. Non riesco a capire veramente il molto culo bene. A forma di diamante. Io lo trovo meravigliosa questa cosa qua. Però questa cosa qua è una cosa del mondo gay. Dai, scusa Giacomo, dai. No, ma figurati. Ma chi è che? Alle donne, sì, d'accordo. Ma gli uomini che si fanno il culo a forma di diamante sono tutti froci. Gli uomini di solito fanno il diamante e poi due buchi laterali che sono più... Due buchi laterali. Diciamo, sono delle cose richieste. Due buchi laterali. Sì, non riesco a capire di che cosa parliamo. I buchi laterali del culo. Cioè, ma sì. Se il nostro signore, due piccoli... Aspetta, fammi sentire prima che sono i due buchi. I due buchi che cosa sarebbero? Scusami Giacomo, scusami. Allora, mentre la donna ha il gluteo molto tondeggiante, l'uomo invece ha due piccole rientranze lateralmente. Sì, nel certo, gluteo. Più o meno sì. Se sì. Non ce le ha, si creano. E quindi, ah, ho capito. Anche questa è una cosa molto richiesta. E quello l'hai fatto pure tu? No, però è molto richiesta, lo facciamo... Ma perché non hai bisogno, anche... perché ce l'hai già, evidentemente. Sì. Ce l'hai già. Ma al tuo compagno, ai tuoi compagni, sei fidanzato in questo momento? Adesso in questo momento non sei fidanzato. Mi hanno cornificato come al solito. Ti hanno cornificato, mamma mia. Ma che te frega? Ma dovete essere liberi. Allora io voglio capire una cosa, ma questo culo piace, cioè agli uomini secondo te piace molto, cioè un omosessuale avere un proprio compagno con il culo a forma di diamante? Io sono appassionato di questa cosa. Carina, impazzisco. No, è bello sempre vedere un corpo di un uomo bello. Di un uomo bello. Ma anche di una donna, per quello sta quello non c'è dubbio. Ma hai sofferto durante questo intervento? Si soffre? No, ma ti dirò, un po' lungo come intervento, solo quello. Un attimo arrivo. Chirurgia estrema. Ciao Giacomo, a presto. David, vai a fare in culo, grazie. Mi raccomando, combatti stasera come un leone. Caro, grazie. Ciao. Un abbraccio. La Zanzara. Dovresti essere menato, non denunciato per abuso di potere, perché con quel cazzo di microfono fai quello che vuoi tu. Ciao. Ciao Cruciani, volevo sapere cosa ne pensi dei fuochi artificiali silenziosi che si sono inventati per non disturbare i signori animali durante il Capodanno. Cosa ne pensi? Che qua siamo arrivati veramente alla follia totale, è tutto degradato. I vegani sono come le persone che hanno smesso di fumare, gli manca talmente tanto la nicotina che devono recuperare i coglioni a te che fumi solo perché sono invidiosi. E in attesa del suo arrivo e in attesa della sua planata qui alla Zanzara nei prossimi giorni, prossimamente, il meglio di Gianfranco Semproni. Già tanto tempo fa, cara Merkel, io ti disse, ne sputa contro venti, che attar ben facce, capito? Quando tu ci hai detto a noi di sghettino e via discorrendo, come che sa Volkswagen, Audi e compagnia belle, state zitti che pure tu, caro mio, la pure, caro mio, fregheta, rubete, ma non mace quindi. Tu conosci Facebook? E tu non hai, hai mai visto Facebook? Mai social visto, network, sì, no? Mi hanno fatto vedere, ma io non e so. E WhatsApp? Non sa, ci manca che è WhatsApp? Twitter. Cioè, WhatsApp, Twitter. Io riesco a capire, pila zap, WhatsApp, pila zap. E con questi mezzi che hanno messo, per me fanno arricchire solamente quei 3-4 stronzi che se l'hanno inventate, ecco. E tenne tante che le quattrine che non si sa gli esce dalle orecchie. Solo Oscar Wilde mi può salvare quando dice non posso più innamorarmi, lascio l'amore a quelli più vecchi di me. Chi le dice? Sapere? Oscar Wilde. Oscar Wilde. Ma sembra uno stronzo col suo. Dai! Anche oggi, mentre stai mangiando, ti arriva la telefonata di un tecnico. Caro tecnico, non lo so se vi la trasmetto, tu sei un grandissimo cornuto. A parte che non sei un uomo perché sei una mezza pippa, perché tu mi devi dire nome e cognome, non mi devi chiamare col numero privato. Uno scostumato, sei un grandissimo scostumato, che se te ne avessi avuto davanti, avessi dato una cucciata, ti avrebbe la coccia come un citrone. Uno scostumato, ma di quelli che mi sono lamentato con Telecom Italia, complimenti visti. E voi ci avete la faccia di cavolo alla direzione che quando uno non paga la bolletta potete tenere pure ragione. E che tipo di servizio date? O gran cornuti che non siete altri. Vergognatevi, zozzone. Cioè quelli che battoccano con le pietre, quelli che ci attuccano con le pietre, allora noi che ci va, ah già ho capito, noi ce lo prendiamo sempre nel culo, ce lo prendiamo nel culo ce lo prendiamo, questa è la verità. Allora ragazzi, andiamo a Firenze. Federico, vai. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Senti, a proposito di occidentali che vendono la propria dignità ai vari emiri, sì. Così, tempo fa, uno o due mesi fa a Firenze, il nostro amico Renzi, insieme a Montezemolo e a Moretti di Ferrovie dello Stato, sì. Ha avuto un incontro a Palazzo Vecchio con un emiro, non sì. So se ricordi, se hai sentito sì, dire sì, qualcosa del sì. Genere. Allora? Ecco, in contemporanea a questo evento c'era anche una rassegna di arte contemporanea di un artista americano, Jeff Koons, che aveva disposto dentro Palazzo Vecchio dei nudi, delle sì. Statue di nudo. Sì. Ecco, per non notare la sensibilità dell'emiro, perché dovevano stringere evidentemente... Jeff Koons, che era il marito, l'ex marito di Cicciolina, sì. Ah, sì, sì, non lo sapevo. Beh, insomma, è noto ai più per quello. Poi è un grandissimo artista che vende le sue opere incomprensibilmente a delle cifre incredibili. Cioè è un milionario perché fa delle opere che sono vendute in tutto il mondo a delle cifre pazzesche. Però in Italia è conosciuto per essere soprattutto al grande pubblico come il marito di Cicciolina, ex marito di Cicciolina. Vabbè, allora più Cicciolina. Beh, e niente, per non usare la sua sensibilità hanno deciso bene di coprire l'estate. Vabbè, ma la solita cazzata, dai, su, sì, se vabbè, uno viene in visita, se uno viene in visita e se becca pure queste cose qui, noi abbiamo questa esposizione e ci sono dei nudi che per noi sono delle cose normalissime. Vabbè, ma cioè, voglio dire, il nudo fa parte dell'arte classica, cioè occidentale, cioè doverla chiudere, doverla coprire perché viene uno, mi sembra una bella cazzata. Ma anche per me è una cazzata, per carità. Fabrizio da Roma, vai Fabrizio. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Io sono un ascoltatore assiduo di Radio 24, mi piace Radio 24, sì. Ascolto veramente quasi tutto, sì. Tutto il giorno. Però a volte quando sento la sua trasmissione, va bene dare visibilità a Razzi, va bene dare visibilità a Borghezio, va bene tutto. Noi non diamo visibilità a nulla, facciamo uno show radiofonico, se le piace bene, sì. Se no, altrimenti se ci fosse, qui la mano e arrivederci. Ci fosse una legge elettorale vera, questa gente in Parlamento. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Le ricordo però, che i personaggi che lei ha nominato, non per difenderli, non me ne frega assolutamente nulla, ogni tanto hanno preso anche delle preferenze, in particolare Borghezio, eh? Sì, anche, sì, anche Razzi, eccetera. La mente umana ci è abituata a qualunque stranezza, per cui va bene anche dare i voti a Borghezio. Però devo dire la verità: secondo lei chi dà i voti a Borghezio è un coglione? Secondo lei chi dà i voti a Borghezio è un coglione? Beh, oddio. Tutto giusto può anche non esserlo. No, no, ma le faccio una domanda. Secondo lei chi dà il voto, chi scrive Borghezio sulla scheda elettorale è un coglione? No, non è un coglione, non arrivo a definirlo coglione. L'hai detto prima. Non avrebbe il mio voto e non avrebbe comunque... Il tuo voto l'abbiamo capito. Secondo te... In modo un pochino più che umano. Cioè, stai dicendo umano. Che chi vota umano. Borghezio è disumano. Sì. Benissimo. Chi vota Borghezio è disumano. Vabbè, però a prescindere da questo, la mia protesta, perché è una protesta quella che sto facendo, la protesta riguarda quello che ho sentito prima, riguardo le abitudini sì. igieniche, il bidet o non il bidet. Sì. Io devo dire la verità, quando sento una cosa del genere alle 8 di sera, sì. mentre sto guidando, sì. e poi ci sono le fasce protette in TV, non capisco perché in radio non ci sia. Faccio una petizione. Se sento dire una cosa del genere alla radio, a me viene voglia di non dirti più, ma come Radio 24, come istituzione. Ma radio fai seria, quello che ti pare. Perché parlare... Cioè... Ma fai io quello che vuoi, ma fai quello che vuoi, protesta, scrivi, eccetera. Ma qual è il problema? Qual è il problema? Non ho capito. Il problema è che ti pulisci limite, il sedere tu o no? Limite. Te lo pulisci il sedere sì, o no? Ma a prescindere da come ma io te lo faccia, pulisci o no il sedere? È tu? Un limite, è ma te lo allora, ti pulisci certo il sedere, benissimo. Pulisco. Dunque, tutti si puliscono il sedere. Sono stati scritti. I limiti sono quelli della legge. I limiti sono quelli della legge. Non me li devi dire tu quali sono i limiti. Non me li dici tu quali sono i limiti. Ma la morale è un discorso difficile, è un discorso complicato. Secondo la morale me è una questione assoluta. Allora, senti, amico mio, io ti non rispetto. Possono fare certe cose. Io ti rispetto, legge, io ti rispetto. Rispetto te, ci mancherebbe. Allora, io ti rispetto, però non devi dire stupidaggini sulla morale. La morale è un altro discorso. La questione la morale non tocca la stupidità, perché la morale è un qualcosa che va al di là della stupidità. Sì, ma ho capito, non ma qual è il punto? Non ho capito. Non il punto è che la morale e stupidità. Sono stati scritti. La morale c'ha delle regole assolute. Vabbè, la morale non la decidi anche qui non la decidi tu la morale. Ma non lo decidi tu per fortuna non lo decidi tu. Con i tuoi figli e senti alla radio uno che sente che parla di come ci si pulisce il sedere. Assolutamente, perché i bambini non lo lasci sentire oppure no? Ma io sì, assolutamente. Sì, io sì. Vabbè. Io sì, vorrei, saranno affari miei o no? Chi vuole spegne? Ma sì, certo. Chi vuole spegne? A Roma, figurati, vedi di tutto, di gente che educa i figli in modi poi vengono su. I bambini, allora, quelli che votano Borghezio non vanno bene, sono disumani, e gli altri educano i figli male. Ma no, vivi in un mondo, vivi nella tua campana di vetro. C'è un limite, punto. Dico solo allora, questo. Il limite lo decidono le leggi. Sono stati scritti sul bidet, sul modo di pulirsi il culo, sul modo di fare la cacca in ufficio, eccetera, eccetera. Dei manuali, sono stati scritti dei saggi. Se non lo sai, te lo dico perché mi avete rotto i coglioni su questa roba qua. Si può scrivere di tutto. E allora, appunto, qualunque argomento. Però c'è un limite morale, secondo un limite me. Morale. Vabbè, non si può parlare della cacca. Legittima. Non si può parlare della cacca. Alle 8 di sera, no. E vabbè, fai una protesta, tanto la fanno tanti. La ma protesta. No, ma mi fermo. Sai che ci faccio? Con la protesta, con le lettere di protesta ci faccio una cosa. Poi una volta. Ma anch'io con la. Te lo racconto. Voglio dire, è una cosa che comunque mi sentivo di dire. No, ma per carità, io ti rispetto assolutamente. Però non mi sembra. Non mi sembra una cosa così grave, una cosa così, no, così shock il fatto che si parli del modo in cui pulirsi il sedere. Certo, ne abbiamo parlato anche con particolari, perché noi non ci nascondiamo, non parliamo delle cose in superficie, si parla anche di dettagli. Qualche volta sono usciti dei dettagli, poi sono uscite fuori anche storie meravigliose, tipo quello che ci ha mandato quella specie di pompetta a spruzzo dal Giappone, eccetera, eccetera. Le trovo delle cose fantastiche, fantastiche. You'll take another piece of me to satisfy your intellectual need. Do you want it? Gonna bring it down, cause you've been pushing me. You got a record cazzo, lo volevo beccare perché una delle notizie di oggi è la separazione tra Belen Rodriguez e De Martino. Voi immaginatevi il cronista dell'Ansa che stamattina si vede chiamare dall'avvocato della signora Belen Rodriguez, che attraverso l'Ansa ha voluto far sapere urbi e torbi la sua separazione con Stefano De Martino, no? Che me tocca fa? Che mi tocca fare? L'avvocato che mi dice ci separiamo. Io avrei risposto sti cazzi. Pronto? Sì, Don Benigno? Sì. Buonasera, qui Radio 24, salve. Volevo sapere, lei ha ufficiato il matrimonio tra De Martino e la signora Belen, si ricorda, sì? Ha saputo della notizia di oggi? L'ho saputa poco fa. Che ne dice? Come l'ha presa? No. Come l'ha presa? Dai, è curiosa la cosa. Lei ha ufficiato il matrimonio. No. Cioè, mi sono consultato con uno, col fiorista, che mi ha detto di non. Meglio non. Con chi si è consultato? Scusi, Don? Non ho capito. Con chi si è consultato lei domani? Con il fiorista che aveva preparato l'altare della. Ah, col fiorista si è consultato. Sì. E che c'entra il fiorista? Perché lei non può esprimere un suo parere sulla separazione. Sì, però siamo amici, abbiamo avuto delle amicizie abbastanza sincera. Ah, per cui vi siete consultati e vi siete detti, ma sì, non rispondiamo a nessuno su questa cosa qua. Bravo. No, per carità, io capisco benissimo, però siccome lei mi è simpatico come voce scoppiettante, una persona molto, molto sincera anche, no? Sì, allora, questo no, probabilmente non. Appunto, no. Volevo capire, ma lei si è sorpreso di questa separazione? Mi dica la verità, è sorpreso o no? Non posso rispondere. No, se si è sorpreso, se la notizia così l'ha colto, oddio, si sono separati, che sorpresa. Oppure invece praticamente era già segnata la cosa. Mi dica la verità. No, già segnata, no, non mi ha sorpreso. Non è sorpreso, non è rimasto solo. No. Era abbastanza prevedibile o no? No, non posso dire, cioè non posso dire prevedibile, non mi ha sorpreso più di tanto. Ah, ecco. Beh, che bell'accento piemontese che ha lei. Di dov'è? Di Novara, Don Benigno, di dov'è? È sardo di origine, immagino, no? Sì, accento piemontese? Sì, o no? No. Solo che me lo dice. Ah, no, è sardo adesso. Sì, però ho sentito un'inflessione piemontese, però. Una piccola inflessione piemontese. Ma che rapporto ha lei? Lasci perdere, non le voglio chiedere della separazione. Sarò più attento. Ah, ok, non le voglio chiedere della separazione adesso. Le voglio chiedere che rapporto aveva lei con Belen? Perché a un certo punto si è pure arrabbiato, mi ricordo, no? Lei di qualcosa per quello che è successo durante il matrimonio. Ma non mi era arrabbiato per niente. No? No, assolutamente. No, era rimasto offeso dal modo in cui era andato il matrimonio, no? No, avevo letto che si era un po' arrabbiato per... Non posso rispondere, dai, no. Non mi costringa. Ma mica ti sto costringendo, Don Benigno, dai. Poi c'è sul giornale, sembra quasi che sia contento di ciò che è avvenuto. No, assolutamente no. Contento non si può essere contenti quando due persone si separano, no? No, non si può mai essere contenti quando due persone si separano. Dai, no. Faccia bravo, dai. No, ma sono bravissimo. Venga a trovarmi e gli offro un po' di pecorino sardo. Ah, il pecorino sardo mi piace moltissimo. Il pecorino sardo mi piace molto. Ma la vernaccia. Scusi, Don Benigno, ma lei col Mirto. Stato trasferito dopo quella vicenda lì, no? Dopo quel matrimonio. Non sono più a Comignago. Ma perché non è più a Comignago, là dove si sono sposati? Non lo so. Cioè, questa vicenda le ha recato un danno a lei, questo matrimonio? Non lo so, dai. Beh, come non lo so? Don Benigno, questo me lo può dire, che c'entra? Non è che ti sto dicendo. Non è che le sto chiedendo. Non è che ti sto chiedendo. Non posso rispondere perché poi escono queste interviste sul giornale. Ma non esce niente. Questo è il Sole 24 Ore, la radio, un'altra cosa. Niente. No, voglio capire una cosa, ma che si sono sposati a fare in chiesa, secondo te? Cioè, ci credevano? Don Benì, amico mio, lo so. Lei che cerca tutte le viuste. E lei cerca tutti i modi per fanno rispondere. Purtroppo è la notizia, è una delle notizie del giorno. Lei capisce come siamo arrivati? Ma sono cose più importanti, altro che la Belen. Lo so, ma il problema è questo, che purtroppo ci sono cose più importanti e noi siamo arrivati a questo, che tocca un minimo parlare così, perché è una cosa popolare, no? È una cosa di cui tutti si occupano, personaggi di cui sanno tutti, della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Cioè, lei si rende conto, no? Cioè, caro Don Benito, ho cose più importanti a cui pensare. Sì, no, d'accordo, ma io la cosa... È sposato? Anch'io mi sono separato. La famiglia... La moglie ai figli piuttosto che alla Belen. Mi sono separato anch'io, però devo dire la verità. Ah, sì? Sì. Convive? No, ancora non convivo con nessuno. No, non convivo. Senti, con nessuno. Male ormai. Sono single, non riesco a. Come faccio a fidanzarmi con qualcuno? Mi dia un consiglio, Don Benigno. Bisogna trovare la persona giusta. Devo trovare la persona giusta. Perché non è. Bisogna condividere la propria libertà. Bisogna condividere la propria libertà, cioè bisogna limitare la propria libertà, dici tu? No, saper condividere la libertà di lei e di lui. Tu dici bisogna mettere insieme le due libertà. Esatto, sì. Trovare dei punti di incontro. E se incontro un maschio, un uomo, che dice? Se mi voglio sposare con un uomo, fidanzare con un uomo? Beh, non è contro la natura, perché Dio ci ha creato maschio e femmina, no? Per la procreazione, altrimenti in teoria la specie umana sarebbe meno. Dici la specie umana morirebbe? Sì, mancherebbero. La prole. E se a me mi piace un uomo, che devo fare, Domenico? Cioè, se io avessi scoperto di essere feroce, omosessuale, come si dice, scusi, però, sì? Gay, un po' se mi piacciono gli uomini, che devo fare? Che devo fare? Posso pregare, forse? Che sì, dici? Sì. Ma Dio non condanna nessuno. Dio non ha mai condannato un peccatore. Se legge il Vangelo, non. Ma perché per lei è un peccato comunque? No, no, no, essere, no, essere non omosessuale. È un peccato, per me non è un peccato. E che cos'è? No, diciamo, è una scelta che uno fa in base alla sua psicologia. Però è contro natura, è contro natura, dici tu, no? No, diciamo contro natura dal punto di vista procreativo, nel senso, le ripeto, no? La specie umana finirebbe. E che devo fare? Se io vengo da te adesso e ti dico, guarda... Aspetta un attimo, che ha suonato il campanello. Aspetta. Siamo sempre in collegamento con Don Benigno Sulis, il parroco che ha sposato la signora Belen Rodriguez e il signor Stefano De Martino, sempre in diretta qui a 20:52. Abbiamo già oltrepassato di gran lunga l'orario che ci è consentito, come dire, no? Però andiamo avanti. Dica, se venisse da me? Allora, voglio dire una cosa, no? Se io vengo da lei e gli dico sono omosessuale, sono sì. Gay, e tu come mi rispondi? Mi fai pregare? Se si confessa, no, assolutamente. La considero una persona normalissima. Normalissima, sì, un po' contro natura, ma normalissima, certo. Però, no, ripeto, contro natura nel senso genetico, sì. non fraintenda. No, per carità, assolutamente. Ma dal punto di vista umano la rispetto. No. Ma dal punto di vista genetico hanno qualcosa di diverso geneticamente gli omosessuali? No, è un fatto secondo me della psiche umana. Della psiche, cioè, sì. La persona umana è molto complessa, non siamo dei robot. Non siamo dei robot, cioè non siamo fatti tutti uguali, sì, certo. Appunto, quella società presenta tanti... Scusi, scusi, però, Don Benigno, adesso non voglio, per carità, strappare una dichiarazione sulla signora Belen Rodriguez, eccetera, ma lei un po' se l'aspettava. Non ho capito. Te l'aspettavi che si separavano? Dai. Certo che sei un sardo testardo, sei un sardo di una testardaggine. Ma se metti nella mia posizione. Ma so due disgraziati alla fine, dai, due così, cioè disgraziati. Sì, sono due poveracci. Due poveracci, dici, sono? Sì, poveracci, ma no, non in senso economico. In che senso? Ah, beh, quello no, sicuramente. In che senso? In che senso? In che senso sono due poveracci? Spiegami. Sono prevedi canto adesso. Arrivando i cantori. Ok, diciamo una preghiera per tutti, per il mondo, una preghiera per me che devo trovare pace. Che preghiera possiamo fare? 2 secondi, 5 secondi, una preghiera, che possiamo fare? E chiedere a Gesù la pace nel cuore. Facciamo una preghiera, come possiamo fare? Facciamo un Padre Nostro, dai, Padre Nostro, facciamolo insieme. Padre Nostro che stai nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Sì, dacci oggi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, sì. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Arrivederci. Ciao. Posso dire, vai in pace, Signore ti ha perdonato. Ciao Don Benigno, ciao, ti adoro. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ci sentiamo domani, ragazzi, ciao. Ormai è tutto degradato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.